Si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Ai più grandi ci ha insegnato l'educazione, il rispetto della vita, il rispetto per chi c'hai di fronte, cioè non era un come l'hanno descritto, un mafioso. L'unica cosa che chiediamo scusa è per la Chiesa, no, però non è che ma sono... su altre cose non chiediamo scusa a nessuno, perché mio zio non era un mafioso come lo volete descrivere voi. Buonasera cari ascoltatori, buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. 18 20 e 30 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta. Cominciate subito a prenotare il vostro intervento. Pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. I nipoti di Vittorio Casamonica che smentiscono, pur avendo voluto la musica del padrino che sentiamo in sottofondo, smentiscono il fatto che lo zio fosse un boss mafioso. Adesso sentiremo altre voci, in realtà si contraddicono perché ammettono lo spaccio di droga e la truffa, ma negano il fatto della mafia. Adesso è cominciato, possiamo dirlo senza essere accusati di qualunquismo, lo scaricabarile tra la questura che filtrano dichiarazioni che dicono ma Vittorio Casamonica in realtà era ai margini dell'attività criminale, quindi niente di strano, il prefetto che dice sì, è accaduto un fatto grave, non doveva accadere, un fatto stigmatizzabile, però non è corretto parlare di una situazione fuori controllo, dice il prefetto Gabrielli. Il ministro Alfano, il ministro dell'interno che aspetta la relazione di Gabrielli, il sindaco Marino che da New York dice un fatto gravissimo, però i vigili urbani erano presenti durante il funerale, quindi forse se erano presenti i vigili urbani anche il comune era informato. Ma sentiamo ancora i nipoti del boss. Era un uomo di musica, gli piaceva la musica, i cavalli è un'usanza nostra, perché un'usanza nostra, la nostra cultura non si usa adesso la carrozza, si usa da un secolo, perché colui che commerciava con i cavalli, colui che commerciava con i cavalli si intendeva commerciando di cavalli, che quando se ne andava si andavano i cavalli. Da una lacrima sul viso. Era un uomo di musica, gli piaceva Bobby Solo, così i nipoti di Casamonica che ancora adesso sentirete negano il fatto che lo zio fosse un boss mafioso, ma in realtà si contraddicono ammettendo spaccio, truffe e tante altre cose. Sentiamo. Dove siete? Fate il vostro dovere non lo fanno, perché il clan Casamonica, il loro dovere, che il clan Casamonica, che loro lo sanno, il clan non esiste, è tutta una macchina, sì, c'è chi spaccia, c'è chi fa le truffe, però all'ultimo che abbiamo fatto, sempre fattore di, siamo nati dai cavalli e mano a mano siamo andati avanti. Corse clandestine, cavalli, qualche truffa, un po' di spaccio, cosa volete che sia? Insomma, no, non siamo un clan mafioso. E cosa siete allora? Ma in tutto questo, il parroco Don Maniero ribadisce, lo rifarei. Il funerale. C'è scritto, lascia moglie, tre figli, nipoti, punto, sotto, cattolico praticante. Che dovevo fare? Quindi lei ha fatto il funerale. Io certo che ho fatto il funerale. Non avrebbe anche diciamo col senno di poi e con tutte le polemiche, oggi lo celebrerebbe di nuovo? Probabilmente sì, faccio il mio mestiere. Una bella intervista a Don Maniero da Sky TG24, noi oggi l'abbiamo chiamato, ci abbiamo parlato a lungo, ha detto che lui conferma tutto quello che è uscito, che lui rifarebbe i funerali, tutto quello che è uscito che avete già sentito, lui lo conferma alle 17.30 del pomeriggio, non è che dice no, ma forse mi sono sbagliato, avrei dovuto approfondire, capire meglio, sapere a chi stavo facendo i funerali in quel modo, c'erano fuori i manifesti con lui vestito da papa, no, rifarebbe tutto, ce l'ha confermato, però non è voluto intervenire in diretta. C'era più tempo di farsi nessun problema, primo. Secondo, non ho avuto nessuna indicazione da parte del vescovo o del cardinale, cioè quindi da parte della curia. Per cui che cosa è che dovevo fare? Io faccio il mio lavoro, sono parroco e faccio il parroco. Quando ero giornalista come lei facevo il giornalista. Sarebbe un sogno ad occhi aperti, ma anche sogni hanno un costo eppure alto. Ma adesso basta, scendiamo tutti quanti in piazza e accendiamoci. Adesso sono in molti a chiedere lo scioglimento, lo fa il Movimento 5 Stelle, tra poco li sentiremo, lo scioglimento del comune per mafia, sentiamo Fedriga della Lega. Serve una misura forte, shock, che vada ad azzerare quello che oggi c'è a Roma. Se uno segue altre strade o non ha capito nulla, in alcuni casi penso che invece gli convenga che questo sistema vada avanti. Bisogna andare al voto il prima possibile e azzerare la città e ricostruirla. Così invece Lirio Abate, giornalista dell'Espresso, autore di numerose inchieste sulla mafia e dintorni, parla di come i Casa Monica si intrecciano con l'inchiesta Mafia Capitale. Carminati in una intercettazione dice, perché siccome alcune persone si sono rivolte a loro perché c'avevano dei contrasti, c'era un avvocato con un contrasto con Casa Monica, e Carminati dice quelli sono straccioni, cioè gente che non vorrei parlarci con queste persone. Eppure alto. Nel frattempo al meeting di Comunione e Liberazione è tornato a parlare Monsignor Galantino, numero 2 della CEI, che insomma si annuncia un periodo interessante dal punto di vista della cronaca su questo fronte, perché non arretra minimamente sulle posizioni di critica a una certa politica che dice pensa soltanto agli interessi immediati e non a progetti. Un tempo post filosofico, ma perché? Perché sempre meno attento alla giustificazione razionale degli orientamenti e delle scelte individuali e pubbliche, guidate per lo più dal perseguimento di interessi e fini immediati e poco meditati, dettati spesso dalla ricerca dell'utile e meno da un progetto consapevole, da un progetto a lunga distanza. Nel tuo letto, ma adesso basta, scendiamo quanti in piazza e accendiamoci la testa, era rimasta la finestra un po' distratta. Pensa, sei solo tu la mia speranza e la mia uscita di emergenza. Se questa corda non si spezza ci costerà un extra. Buonasera Roberta Lombardi, parlamentare del Movimento 5 Stelle, romana, tornata a chiedere lo scioglimento del Comune di Roma. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, andiamo con ordine però. I Casa Monica, lei è romana, chi sono e cosa rappresentano? Perché insomma già oggi al secondo giorno c'è qualcuno che ridimensiona, dice in fondo è stato solo un funerale, un po' folcloristico, ma tutti hanno diritto a fare un funerale. Qualcuno ha detto questo. Per chi non fosse di Roma, il clan dei Casa Monica è un clan di origine, di provenienza abruzzese, ma di origine sinti, quindi è un'etnia rom, insediato da moltissimi anni in Italia e soprattutto nell'area romana del sud-est, dove gestisce un traffico di estorsione, racket, usura. Ed è un clan potentissimo, infiltrato in tutte le attività economiche di quell'ampio settore romano. C'è un interessantissimo articolo di Lirio Abate, del giornalista dell'Espresso, sì, di qualche anno fa, che parlava del capo clan di Casa Monica come uno dei re di Roma. Non per niente ieri nella scenografia, no? Che sì, è stata messa su per il funerale, menzionavano proprio uno delle varie immagini che riportava l'effigie di questo signore era proprio, lo citava come il re di Roma, uno dei re di Roma, non solo, ma la musica, la musica del Padrino utilizzata, uno stile sicuramente, loro dicono sì, ma i cavalli fanno parte della nostra cultura, però la musica del Padrino è indicativa di qualche cosa. Oggi invece nelle interviste, ovviamente, i parenti, i familiari, i mille nipoti di Vittorio Casamonica ridimensionano, anche se dicono sì, vabbè, un po' di spaccio, un po' di truffe, ma non siamo un clan mafioso. Questo, diciamo, difficilmente un clan mafioso dice sì, sono certo. Un clan mafioso, insomma, quindi che loro si autocertifichino da solo lascia un po' il tempo che trova. Io al di là, insomma, degli spazi più o meno folcloristici, perché loro ieri hanno voluto dare un omaggio sicuramente al capoclan morto, ma anche un segnale alla città, perché hanno organizzato un evento grande, perché si parla di un corteo di 15 chilometri percorsi in corteo con questa carrozza, con limousine, con SUV, con l'elicottero che passava e cospargeva la folla di questi, anzi super leggero che passava e cospargeva la folla con petali di rosa. Sono tutte operazioni che non si improvvisano dall'oggi al domani, ci vuole un'organizzazione. E quello che è il dato politico vero è che tutto questo movimento organizzativo sia stato fatto nell'assoluta inconsapevolezza, vogliamo chiamarla così, punto di domanda delle istituzioni. Questo sì. È un punto politico, al di là poi del hanno fatto un funerale secondo i loro riti o secondo anche il loro gusto, buono o cattivo che sia, corrichiamo al Padrino. Il punto politico è che c'è una famiglia notoriamente criminale che spadroneggia per Roma nell'assenza delle istituzioni, che è una cosa veramente drammatica. Adesso poi facciamo una piccola pausa per il traffico, torniamo con Roberta Lombardi e vediamo di capire dal vostro punto di vista quali possono essere le responsabilità. Questore, prefetto Gabrielli, ministro Alfano, sindaco Marino. Traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Sarebbe un sogno ad occhi aperti, ma anche i sogni hanno un costo, eppure alto. Ma adesso basta, scendiamo tutti quanti in piazza. Adesso basta, è un po' questo il senso della presa di posizione del Movimento 5 Stelle, che è tornato a chiedere, dopo la scena dei funerali a Roma dei Casamonica, lo scioglimento del comune di Roma per mafia, cosa su cui il ministro dell'Interno deve ancora esprimersi, vero? Onorevole Lombardi. Il 27 agosto dovrebbe esserci il pronunciamento da parte del Consiglio dei Ministri, a cui il ministro turista per caso, come lo chiamo io, Alfano, riferirà per le sue determinazioni. Senta, a proposito però appunto delle responsabilità, perché io metto lì alcune cose. Allora, dalla questura che dice nessuno ci aveva dato notizia dei funerali di Vittorio Casamonica, i vigili urbani che erano presenti durante il corteo, e quindi diciamo il comune in qualche modo aveva avuto notizia, tutti lo sapevano perché sono stati intervistati i romani che dicevano lo sapevamo che ci sarebbe stata questa cosa. C'era anche una nutrita presenza di telecamere stampa, insomma, quindi se lo sapevano i giornalisti non poteva non sapere, cioè voglio dire, diventa ancora più grave. Che lo sappia prima. Esatto, diventa ancora più grave. La questura o che lo sappia prima l'autorità giudiziaria, visto che tra l'altro molti dei presenti, essendo insomma un clan di noti gentiluomini, avevano chiesto dei permessi speciali perché magari in carcere o agli arresti domiciliari, e quindi avevano chiesto un permesso speciale per partecipare al funerale. Ora, al momento l'unica cosa è, diciamo, chi ha guidato l'elicottero, a cui è stata sospesa credo la patente, non so esattamente, però mi sembra un po', diciamo, un aspetto marginale. Dal suo punto di vista, di chi sono le responsabilità di quello che è successo ieri a Roma? Allora, io dicevo prima, un punto politico grosso era il discorso appunto dell'un'organizzazione così grande per una manifestazione, per un evento così imponente, non poteva passare sotto silenzio. Non poteva passare sotto silenzio da parte del comune, che comunque autorizza determinati tipi di percorsi, perché se io o lei ci mettiamo un giorno e decidiamo di fare un corteo all'interno di una strada di qualunque comune d'Italia, non lo possiamo fare se non abbiamo una un'autorizzazione e della questura e della polizia municipale, della polizia locale del comune. Quindi non potevano non farlo, non potevano non sapere, e se l'evento è stato fatto in assenza di informazioni date al comune piuttosto che alla questura, comunque doveva a un certo punto essere impedito, semplicemente. Poi un altro punto grave, gravissimo, sì. Questo super leggero che passa sui cieli di Roma e sparge petali di rosa. Sono petali di rosa questa volta. Poteva essere qualche altra cosa? Parliamo tanto di sicurezza internazionale, cioè significa che c'è un permesso per velivoli privati di sorvolare i cieli di Roma nell'assoluto. Perché posso anche capire, come è stato sollevato, dice il pilota aveva fatto un piano di volo che poi non ha, che era stato autorizzato, che aveva un'altra rotta, e poi invece questa ha preso, ha girato il suo aereo ed è andato verso Roma, perché ho letto che partiva dalla provincia di Napoli. Ma dalla provincia di Napoli a Roma un velivolo può attraversare impunemente i cieli di tutto questo ampio territorio senza che nessun altro velivolo militare si alzi in volo per capire che cosa sta succedendo, chi è alla guida, con quali intenzioni? Che cosa può arrivare sulle nostre teste con questo principio? Ma è ammissibile anche un ministro dell'interno che aspetta la relazione del prefetto? Sì, questo posso capirlo, ma che nel frattempo non dichiara, non interviene, è assente fondamentalmente. È presente sempre il giorno dopo per leggere le informative che solerti funzionari gli preparano. Ogni volta che succede qualcosa mi viene in mente i tifosi olandesi per una partita della, pare fosse della Roma, o comunque insomma che si è tenuta a Roma, che hanno devastato il centro storico. Mi viene in mente gli scontri tra tifoserie della Roma e del Napoli, una partita di Coppa Italia, sì, dove c'è scappato il morto. Mi viene in mente il rapimento della Shalabayeva con la sua bambina di 6 anni. Arriva sempre dopo. Ma allora ci serve un ministro dell'interno che viene solo a leggere i foglietti quando succede un evento di cui lui è responsabile, che venga a portare la giustificazione come il bambino il giorno dopo scuola? Io penso di no. Non è il dopo la sicurezza, è il prima, è la prevenzione. Però per voi resta, diciamo, prioritaria la richiesta di sciogliere il Comune di Roma per mafia, perché per voi, diciamo, da questo punto di vista, anche in questo caso il Comune resta l'ultimo responsabile, è questo? Noi prioritariamente vorremmo che Marino rassegnasse le dimissioni, liberasse l'amministrazione, i cittadini romani da un'amministrazione a guida di un partito che è il PD, che ha dimostrato attraverso, insomma, arresti e indagini su suoi autorevoli esponenti e di essere a libro paga fondamentalmente. Però Marino in fondo non è toccato, non è l'ambito dell'inchiesta, quindi questo non è... Lui personalmente no, ma la sua amministrazione sì, e lui è responsabile della sua amministrazione. Però sciogliere il Comune di Roma per mafia non sarebbe un contraccolpo, non potrebbe rappresentare un contraccolpo di immagine negativo per Roma e per l'Italia nel mondo? Sì, ma lo sai come hanno aperto tutti i giornali oggi del mondo, da New York Times in poi, con le foto del funerale di Casa Monica? Cioè, questa è l'immagine che noi stiamo dando. A questo punto sarebbe ora che il nostro Stato desse l'immagine di essere presente e prendesse una posizione, che sia lo scioglimento del Comune per Roma, che da romana le dico mi procura una sofferenza inimmaginabile, o che siano le dignitose dimissioni di un sindaco che ha dimostrato di essere, diciamo, la copertura politica di un sistema criminale, mafioso, affaristico che governa la mia città, una delle due deve essere. Senta, come giudica invece la Chiesa, il parroco Don Manieri, che ha celebrato la messa, ha detto lo rifarei? Altre volte la Chiesa aveva scomunicato dei boss, questa volta invece non è accaduto niente di tutto questo. Un atteggiamento che francamente trovo molto molto opinabile. La parte mia, insomma, è da scondersi dietro il non sapevo chi fosse il morto e non avevo notato. Ma è possibile che Don Manieri, da romana, è possibile che il parroco, che non è insomma un parroco giovanissimo di Roma, non sapesse chi era Vittorio Casamonica? Io non lo so se lui lo sapesse o non lo sapesse chi era Vittorio Casamonica. So che non puoi non chiedere chi è la persona che ti viene portata, per il quale vai a celebrare dei funerali. Che cosa è? Chi è? Che cosa ha fatto nella vita? Comunque Casamonica è un nome che, io le dico, non mi sono mai occupata di politica fino a 10 anni fa, eppure lo conoscevo, cioè a Roma Casa Monica è un nome. Eh certo. Senta, a proposito però di preti e di Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle al meeting di Comunione Liberazione, è una novità. Cosa sancisce un po' la fine della vostra diversità dai partiti? Perché quello è il classico raduno dove vanno tutti i rappresentanti politici a interloquire con quel movimento. Allora, la di nostra differenza la potrà sancire solo quello che a noi andremo a dire in quella occasione. I partiti in questi anni sono andati al meeting di Comunione e Liberazione per ostacolare Comunione e Liberazione e fare affari e garantirsi rielezioni attraverso, insomma, le loro sponsorizzazioni economiche, in un intreccio tra affari e politica che poi privilegia sempre l'interesse privato rispetto invece all'interesse voi? Pubblico. Noi andiamo a portare una posizione politica probabilmente anche non comoda, probabilmente che non riceverà molti applausi, ma è la posizione del Movimento 5 Stelle. E quindi è bene che una forza come la nostra, che si accredita come forza di governo, vada a parlare proprio con quelle persone che non la conoscono e che non... almeno si parte da basi che sono ben diverse, ma insomma un colloquio, se ci dovesse essere un colloquio, si costruisce iniziando a parlarsi, no? Senta, Monsignor Galantini, numero 2 della CEI, proprio dal meeting di Comunione Liberazione, ha ribadito le sue critiche ai politici, ha detto si muovono solo per l'interesse immediato, aveva detto è un harem pieno di cooptati, è diventato grillino anche lui? Me lo sono chiesto quando ho letto le reazioni dei vari politici di lungo corso, tutti un po' indignati sì, da quello sì. che diceva Fatti. Lei non era indignata, immagino, perché dice no, quello che dite esatto, voi da tempo. Esatto, cioè che pure io ho chiusato un po' così provocatoriamente, sarà diventato uno sporco grillino. No, la posizione della Chiesa, diciamo, è una posizione che non sempre ci trova sia su temi etici, ma anche o atteggiamenti nei confronti della corruzione o della gestione della cosa pubblica a favore appunto sì. di interesse pubblico o non interesse privato, non sempre ci trova sulla stessa lunghezza d'onda. In questo caso in realtà sì, io spero che la CEI, anche grazie all'opera di questo Papa, insomma, stia ritrovando forse una strada di come definirla, di etica, di un modo diverso di concepire i rapporti tra Stato e religione che in questi anni, sì. in questi secoli probabilmente sono. Ma secondo lei Galantino rappresenta la Chiesa intera? È impossibile, naturalmente, ci sono varie anime, sappiamo che c'è un po' una guerra intestina, Salvini ha detto che deve iscriversi a Rifondazione Comunista, Galantino. Vabbè, Salvini se non la spara per avere il sito d'apertura dei giornali non è contento, quindi cioè, quello che vedremo poi al di là dei proclami sì. e dei discorsi fatti nei vari meeting o in occasione di centenari o celebrazioni varie, poi vedremo come si comporterà la Chiesa su tanti temi, in primis per esempio la trasparenza sull'istituto bancario che fa capo appunto alla Città del Vaticano e che per tanti anni è stata la cassaforte di soldi procurati in maniera non lecita. Va bene, grazie, buona serata Roberto Lombardi. Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Parlamentare del Movimento 5 Stelle, questa è la posizione di Grillo e Company su Roma, su quello che è accaduto, il funerale dei Casa Monica, 800 24 00 24. La richiesta è lo scioglimento del Comune di Roma per mafia, cosa su cui ci ha ricordato anche l'onorevole Lombardi e il ministro Alfano. Il Consiglio dei Ministri anzi si esprimerà tra pochissimi giorni. Ci fermiamo per la borsa, torniamo tra poco con fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, cominciamo subito con i vostri interventi, andiamo con Roberto che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera. Buonasera Roberto. Allora, io... Lei è transitato in mezzo al funerale di Casa Monica ieri? È capitato? No. Sta in un'altra parte della città. Sono in periferia. Ma è vero che lo sapevano tutti che c'era questa cosa? Ma guardi, io abito fuori dall'altra Roma, parte, dall'altra non, parte. Non ho idea di queste sì, cose. Su cosa voleva intervenire invece? Te volevo intervenire in un fatto di minore attualità, riguardo agli animalisti, ai loro luoghi comuni. Sì. Io sono uno zootecnico, ho lavorato tanto nel settore dell'allevamento degli animali e c'è questo luogo comune per cui si potrebbe diventare tutti vegetariani. E che ne so, allevare peperoni e zucchine in tutte le parti del globo, questa non è una verità, perché ci sono, bisogna tener conto della vocazione dei terreni, no? E coltivare i peperoni nell'Antartide non è possibile, e neanche nel nord Europa. Però nell'Antartide nemmeno si possono allevare animali, o sì? Beh, c'è chi si mangia le foche, insomma. Come sono le foche? No? Sono buone? No, credo, non lo so. Sono un po' grasse, un po' grasse. Questo fatto, ma soprattutto delle... Roberto, ognuno credo che faccia giustamente come crede, no? Ma non si può fare come crede, perché sì, se c'è cibo per tutti è perché in alcune parti, in alcune regioni si può fare un determinato tipo di agricoltura, in un'altra se ne deve fare un'altra. Se andiamo nell'Africa subsahariana, per esempio, se non ci fosse l'allevamento della capra che riesce a utilizzare quelle erbe che sono immangiabili per qualsiasi altra specie, e l'acqua è poca e fa caldo, se non ci fossero le capre, quelle popolazioni in determinati periodi dell'anno non potrebbero sopravvivere. Giusto. Sopravvivono grazie al latte delle capre. Poi è una conseguenza che quando si allevano degli animali bisogna fare selezione, bisogna scegliere chi deve vivere o meno, perché comunque siamo sempre predatori, però l'uomo lo fa diciamo consapevolmente. Non quindi lei dice, insomma, la scelta degli animalisti o dei vegetariani o dei vegani, al di là della questione ideologica, è una scelta di tipo diciamo integralista, che non si adatta invece a discorsi che lei giustamente fa sulla biodiversità, sul fatto che ogni territorio ha le sue specificità. È una bella posizione, grazie. Non Roberto. È plausibile, sì. Non è, no, plausibile. È una bella, e una bella idea. E quindi volevo invitarli a riflettere anche su questo, perché è una scelta che possono fare, diciamo così, i paesi ricchi, ma non possono fare tutti. Va bene, quindi, grazie, prego, buona serata, prego, grazie. Prego. Pasquale da Napoli. Pasquale, buonasera. Salve, buonasera. No, volevo dire la mia circa il funerale che è stato a Roma in questi giorni. E no, niente, io praticamente la penso in questo modo, assolutamente sono contro queste cosche che ancora sopravvivono a Roma, in Italia, e ovviamente fanno illeciti tutti i giorni. E ecco, voglio dire questa, additare oggi, no, che lo Stato, il Ministro dell'Interno, il Comune di Roma, le forze pubbliche e tutti gli altri, no, mi chiamano per dire il signore che guida l'elicottero, il pilota, no? E mi vanno a ritirare il permesso all'elicottero perché ha lanciato dei petali, oppure vanno da questo qua che fa l'agenzia funebre, lo vanno a sanzionare perché ha fatto un funerale, non lo so, in un modo troppo oneroso, oppure se la prendono con il prete perché non doveva fare. Io non la vedo così, io dico, guardi, ma scusi, se questa persona sta fuori, è morta, no? E tutti sapevano che era una brava persona, e il ministro dell'interno, voglio dire, le forze non sono stati in grado di scoprire questa persona, il traffico che faceva, gli illeciti che facevano. Che cosa c'entrano adesso sta gente che sono andati semplicemente lì, hanno ordinato un funerale, hanno preso questo dell'elicottero, ha detto mi lanci due petali, sono andati in chiesa, hanno detto mi fate, è morto questa persona. Però scusi, lei cosa fa? Infila la testa sotto la sabbia e dice, siccome questo signore non era in carcere, anche se aveva avuto dei guai giudiziari, lui come sua genia, questo basta dire che potevano fare quello che gli pareva? Sì, ma io privato che guido un elicottero, oppure faccio che ne so questa persona chi è, se lui viene mi ordina un funerale in punta. Ma non diciamo fesserie, scusi, come non sapeva chi è? Ti mandano a buttare i petali, a parte il fatto che su una cosa sono d'accordo con lei, non bisogna togliere, prendersela solo con l'elicotterista, ma forse anche chi è che controllava i cieli di Roma in quel momento lì? Ci sarà stata un'autorità del volo che non ha controllato un volo non autorizzato? Ma l'hanno chiesto l'autorizzazione, dice che semplicemente ha sorvolato una zona che non era autorizzata, una zona che forse non doveva entrare, però esatto. Se diciamo che era un matrimonio o era una cosa del tutto normale, cioè secondo lei era tutto regolare quello che è successo ieri a Roma, tutto normale? Guardi, traffico bloccato, parata di decine e centinaia di persone, molte delle quali hanno precedenti, che inneggiano a uno che è il padrino, per loro stessa ammissione, di un, se non è un clan mafioso, che cos'è? Un clan criminale? È tutto normale? Assolutamente no, perché da loro lo Stato fino ad oggi non è stato capace di individuare questa persona, e addirittura dicono tutti che è una brava persona. Ma chi è che dice che è una brava persona? Scusi, chi è che dice che è una brava persona? I nipoti di Vittorio Casamonica dicono: ma sì, non è un clan mafioso questo, nostro zio amava la musica, al massimo faceva un po' di spaccio, un po' di truffe, veda lei. Ma vedo io, però perché? Allora perché sta persona non era in galera? Io questo voglio capire, perché? Me lo dica lei, perché? Se faceva tutto questo questa persona, perché non era in galera? Io questa è la domanda che voglio fare anche ad Alfano, al ministro dell'interno. O perché se la prende con l'elicotterista, se la prende col prete? Non era in galera perché in quel momento non aveva nessuna condanna da scontare, ma che fosse uno dei capi riconosciuti di un clan che fa la truffa, le estorsioni, lo spaccio di droga con tanto di sentenze, di arrestati, di condannati. Questo sì, però, mi scusi, altrimenti infiliamo la testa sulla sabbia e facciamo finta di nulla. Secondo lei l'elicotterista doveva ovviamente sapere tutte queste cose, secondo lei? Ma lasciamo perdere l'elicotterista, qui il problema è il questore, il prefetto, il ministro dell'interno, il sindaco, non l'elicotterista. Chi se ne frega dell'elicotterista, mi scusi. No, perché l'elicotterista gli hanno tolto la licenza perché lui non doveva sorvolare quella zona. Ma che è un suo amico l'elicotterista. Adesso si trovano i capi espiatori. Va bene Pasquale, ho capito, grazie. A lei sta a cuore la sorte dell'elicotterista e vedremo che fine farà. Alberto da Milano, buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, guardi, l'intervento è sugli funerali di Casamonica. Sì. Forse è un po' fuori dal coro, però riguardo a quella che è stata la presunta non presenza delle forze di polizia o altro, volevo suggerire un diverso punto di vista. Proprio agganciandomi alla colonna sonora scelta dal Casamonica, il padrino. Sì. Se ricorderete, mentre si celebrava il matrimonio, fuori l'FBI prendeva le targhe dei partecipanti. Mm-hmm. Quale migliore occasione di un raduno così? Ah, le dice totale? Per prendere le targhe di un sacco di macchine. Ma no, è un'ottima occasione di censimento. Sì, sì, cioè, sì. Se io fossi stato il questore e avessi saputo, come probabilmente, anzi, io dico, secondo me sicuramente il questore sapeva di un evento di questo tipo, non lo avrei impedito. Sì, perché sì, l'avrebbe fatto fare per poi utilizzarlo per raccogliere informazioni. È un'ottima occasione per radunare, soprattutto quando un network delinquenziale è così grande. Speriamo che l'abbiano fatto, senza dircelo. Speriamo che l'abbiano fatto. Lei io pensa che l'abbiano positivo. Fatto? Ah. Io ho fiducia in generale nelle istituzioni e sono convinto che sia stato fatto. Perché però a questo è punto, scusi, improbabile che sia stato fatto. Sì, a questo punto però potrebbero dircelo, no? A questo punto potrebbero dircelo, tanto è passato. Direi proprio di no, magari soprattutto perché? Se è in corso questo tipo di operazione. Beh, ma l'operazione ormai, scusi, l'operazione, come la dice lei, poteva essere un'idea intelligente, tra l'altro, però ormai sarebbe una cosa fatta, perché il funerale c'è stato ieri. A questo punto, forse per tranquillizzarci, la questura potrebbe dire: tutti tranquilli, sapevamo tutto, era tutto sotto controllo, invece di dire: noi non sapevamo, non ci avevano avvertito che c'erano i funerali di Vittorio Casamonica. È un po' diversa la cosa, capito? Sono molto d'accordo con lei, perché secondo me certe operazioni, quando poi vediamo il risultato di certe operazioni, queste sono il risultato di un numero molto ampio e... Sì, ho capito, ma secondo lei oggi la questura, scusi, però io cerco di seguirla, però faccio un po' di fatica, secondo lei oggi la questura dice non sapevamo niente e lo dice, perché lo dice? Per coprire questa inchiesta che starebbe facendo? Secondo me sì, diciamo che è preferibile... Gettando però nello sconforto i cittadini romani che pensano di essere governati da nessuno e da niente. Ma guardi, probabilmente ci sono interessi che vanno anche oltre quello singolarmente dei cittadini romani. Non voglio dire che sia. Ma vabbè, comunque è una teoria la sua. La mettiamo agli atti. È una teoria. La questura sapeva dei funerali, ha fatto tutto scientemente. C'erano un sacco di poliziotti lì intorno che controllavano e hanno fatto un sacco di fotografie, preso numeri di targa, eccetera. Possibile. Ora vediamo se questa sua teoria, diciamo anticomplottista, da un certo punto di vista, fa presa. 800 24 00 24, anche sugli altri ascoltatori. Andiamo con Bruno da Roma. Buonasera. Sì. Niente, buonasera. Allora, volevo dire, l'elicotterista secondo me non ha nessuna colpa, perché il piano di volo è stato preparato dalla proprietà dell'elicottero. Poi se è uscito fuori dal piano di volo è un'altra storia. Chiuso. Però volevo dire, io ho avuto a che fare con i Casamonica. Lei personalmente? Personalmente, e ne porto ancora i segni oggi, dopo 21 anni. Che è successo? Ho avuto 2 mesi di guarigione, ho avuto tutto il viso rotto, vabbè, comunque... Cioè è stato aggredito, ha avuto un'aggressione violenta. Certo. Come mai, per quale motivo, se glielo posso chiedere? Solite rapine, furti e tutte queste cose così. Lei è stato rapinato da loro? Sì, sì. Mi portarono all'ospedale. Quando venne la polizia, mi disse chiaro: ma come, lei si ferma a dare l'informazione ai Casamonica che erano scesi da un Ferrari? E io mi riconosco. Come non li conosco? Li conosco tutto Roma? Io non li conosco. Non li conoscevo. Così mi disse la polizia: non conosci i Casamonica? Ma andammo a processo in tribunale. Sì. C'erano 7-8 testimoni. Loro avevano i testimoni per discolparsi? Certo. Erano falsi testimoni? Il giudice mi lesse le memorie di Adriano, che c'erano condannati 5 mesi, 7 mesi, 1 anno, 6 anni, 7 anni, 5 anni. E mi disse: come, tu non conosci questo pugile di Casamonica Guerino? Dico: no, è un pugile affermato in Italia. E chi lo conosce? Io. Cioè, scusi, mi spieghi meglio. Allora, lei ha denunciato poi queste persone, è andata a processo, però... Ma è andata all'ospedale. Sì, all'ospedale con coscienza. Sì, ma dopo c'è stato un processo per questa vicenda? C'è stato un processo, sì. Loro si sono presentati con testimoni falsi, secondo lei, e quindi lei non è riuscito a ottenere la condanna dei suoi aggressori, no, è questo? Mi hanno suggerito di fare 4 passi indietro. Di ritirarsi. Certo. Ma tu sai, io non sapevo niente... E lei poi l'ha seguito questo consiglio, diciamo, interessato? Certo, ma anche il giudice mi diceva, mi dava dello scemo. Uno che esce dalla banca così viene aggredito da questo, quello e quell'altro, che pensi? Quindi questo potrebbe anche essere una risposta, questa potrebbe essere, scusi, anche una risposta, sì, all'ascoltatore di prima che diceva, ma perché non era in galera? Perché non è facile fare finire in galera certa gente. No, perché c'hanno di Casamonica, Guerino, Antonio, ce ne sono 7 che si chiamano tutti con lo stesso nome. E se quel giorno stava a Piazza di Spagna con l'abita, no. Ma lei, scusi, cosa ha pensato ieri quando ha visto queste notizie, visto che lei è stato, diciamo, toccato direttamente? Questa è l'esportazione della politica mafiosa italiana. Detto, perché quando io faccio un esempio, adesso mio figlio che sta andando a fare il militare in Germania, perché non lo vuole fare qui in Italia, ha detto che deve andare in Germania, e mi ha detto: papà, ma come pensi che io possa ritornare in Italia con certe cose? Ecco che cosa dico. Io giro molto per il mondo, e fanno altro che parlare di mafia spaghetti. Ne sono stanco di sentire sempre le stesse cose. E io sono arrivato all'ospedale di Frascati in stato di incoscienza, non capivo niente, non sapevo quello che era successo, niente. Mi hanno raccontato tutti i poliziotti del distretto di Cinecittà, dove loro abitavano. Va bene. Loro abitano Saviana Nina in Casamonica. Grazie Bruno, grazie, buona serata. Mi devo fermare per il traffico, torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24, testimonianza, insomma, diretta di chi ha avuto a che fare e non sono stati bei momenti con i Casamonica. Si può fare l'attualità anche d'estate. Sud, non ti fare castrare dal potere criminale che ti vuole fermare. Guastagli la testa, abbassagli la cresta, guarda la sua testa rotolare nella cesta. Libera la mente da ogni assurdo pregiudizio, è l'inizio della fine del supplizio che da secoli ti domina, ti ingoia e ti rivomita. Potere di quei demoni che noi chiamiamo uomini, che uccidono altri uomini, che sfruttano noi giovani, che tagliano le ali agli angeli più deboli. Potere che soggioga, potere della droga, potere di uno Stato che di tutto se ne frega. Strage di Bologna, Ustica, Gladio, Cumuli. Vabbè, citazione ultraventennale di Frank I. Energy per parlare di un argomento connesso a quello in cui abbiamo aperto, perché nell'Italia dove che lascia festeggiare i Casamonica un funerale nel modo in cui è stato fatto ieri, meno un film di Hollywood, dove quindi la cultura della legalità, diciamo, zoppica quantomeno, di cosa stupirsi se un signore che cerca di dare lavoro regolare a 70 persone nei campi di Gioia Tauro su terreni confiscati alla mafia non ci riesce, non ce la fa per mille difficoltà che insorgono, tra cui anche e soprattutto intimidazioni e minacce. Il signore in questione è in collegamento con noi ed è Domenico Luppino. Buonasera. Buonasera, buonasera. Gestisce la cooperativa Giovani in Vita, insomma, noi vogliamo provare a darvi una mano perché la storia che abbiamo letto ha dell'incredibile. Terreno sequestrato alla mafia, gara per imprenditori per riattivare, portare avanti le attività economiche, sono degli ulivi, 500 ettari di ulivi. Lei vince la gara, cerca di cominciare a lavorare, poi nascono i problemi, tanti problemi. Quali? Sì, la gara l'ha vinta la cooperativa, non io. Niente, abbiamo iniziato a lavorare su questi terreni, già lo facciamo, l'abbiamo fatto lo scorso anno, adesso lo stiamo facendo anche quest'anno. Lo scorso anno gli ex proprietari sono venuti a minacciarci direttamente. Gli ex proprietari, che ricordiamolo, sono le persone che sono incriminate per questioni attinenti alla mafia, ed è il motivo per cui l'Agenzia per i beni confiscati alla mafia ha messo poi, diciamo, a gara questi terreni. Quindi loro sono gli ex proprietari e sono venuti lì a fare che cosa? A dirci se avevamo l'autorizzazione per andare su quei terreni. E ve lo hanno detto con le buone o anche con le cattive? Sì, esattamente queste parole. Ci hanno detto se avevamo l'autorizzazione a stare lì e se avevamo chiesto il permesso. Noi abbiamo detto che avevamo il permesso del tribunale per le misure di prevenzione di Reggio Calabria, e loro hanno detto che quando vengono dalle nostre parti, nel nostro paese, loro sono abituati a chiedere il permesso, e noi abbiamo risposto che evidentemente non chiedono il permesso a noi, ma evidentemente ai loro amici che non siamo noi. Sì. Poi quest'anno invece questo tipo di minacce sono finite e invece è iniziata una sorta di sistema che vuole che qualunque tipo di interlocutore che noi andiamo a cercare perché lavori sui nostri terreni venga disincentivato, nessuno invitato a non farsi avanti, perché voi state cercando diverse persone per lavorare in questi ulivi. Quante persone cercate? Stiamo cercando solo manodopera, perché la manodopera bene o male riusciamo a trovarla anche grazie ai nostri soci, ma anche grazie ai ragazzi migranti. Invece che cos'è che state cercando? Noi stiamo cercando delle persone, dei contotestisti, delle persone che vengono a fare certi tipi di lavori particolari. Quindi consulenti, fornitori, insomma, diciamo, tutto quello che c'è prima e dopo una cooperativa che lavora gli ulivi. Sì. È lì che succede, quando vi fate avanti? Lì succede che questa gente in un primo tempo si avvicina, poi evidentemente immaginiamo che viene, come dire, avvicinata, consigliata. E rinuncia al lavoro, anche a dei lavori abbastanza consistenti, diciamo, che potrebbero essere allettanti. Rinuncia e noi ci troviamo in serie difficoltà. Ultimamente abbiamo deciso c'è stato il furto del trattore, hanno manomesso l'automobile a lei, è vero? Sì, infatti avevamo deciso di fare un lavoro da noi, visto che non veniva nessuno. E nel momento in cui abbiamo detto che avremmo fatto questo lavoro da noi, nella stessa giornata è scomparso un trattore che era custodito all'interno di un deposito dove c'erano altri mezzi che erano dell'azienda, che sono sequestrati ma che noi non possiamo usare. tra i tanti trattori che c'erano, loro casualmente hanno scelto chi è andato a rubare, ha scelto esattamente il nostro trattore lasciando intatti. Io immagino che sia difficile anche per voi, per lei, insomma, denunciare queste situazioni, perché si tratta di minacce velate, di intimidazioni non, magari non esplicite, oppure anche semplicemente di una, cioè non riuscite a avere collaborazioni con i fornitori, a trovare collaboratori eccetera, però non è che potete dimostrare chiaramente che questo dipende dalle intimidazioni mafiose. Però io le voglio chiedere, ma lei si sente più abbandonato dalle istituzioni che dovrebbero vigilare meglio, oppure anche tra i suoi concittadini questa specie di omertà comincia a diventare pesante? Allora, tra i miei concittadini, al disinteresse dei miei concittadini, della gente che sta attorno a noi, siamo abituati, e quindi ormai non ci facciamo quasi più caso. Noi portiamo avanti questo discorso da una decina, da più di 10 anni, e non è che riceviamo il plauso della gente che ci sta attorno. Quello che ci fa più paura invece è assolutamente l'abbandono da parte delle istituzioni, nel senso delle istituzioni Ma anche però delle attività economiche, commerciali, di altre imprese che dovrebbero, possiamo fare un appello, scusi, io adesso questo punto lo voglio fare, perché insomma noi un po', qualcuno che ci ascolta, cioè facciamo un appello alle forze produttive della Calabria, sane, buone, che magari le possono venire a dare una mano, qualcuno che non viene, che magari non è proprio lì a fianco a voi, che può avere subito questa intimidazione, ma che invece ha proprio voglia di farlo e di venire a collaborare con voi. Giovani in Vita, il nome della cooperativa, la storia l'avete sentita, cosa possiamo dire? Possiamo dire che noi in questo momento abbiamo bisogno di persone che ci vengano a aiutare con mezzi e attrezzature. Abbiamo parecchie migliaia di quintali di legna da frantumare per farne del cippato, e nessuno lo vuole venire a prendere. Quindi chiunque ha un mezzo che può assolvere a questo tipo di lavoro, cioè venire a frantumare questa legna, poi noi siamo disponibili e lo accettiamo. Noi non siamo riusciti a trovare nessuno, abbiamo bisogno di gente che abbia dei trattori fruttesi per lavorare sotto gli agrumeti, sono particolari tipi di trattori molto bassi. Noi siamo qui disponibili a dare lavoro, a pagare il lavoro che chiediamo, perché c'è un'attività, ci sono 500 ettari di ulivi, c'è un terreno che può fruttare, e quindi non è assistenza, volete lavorare tranquillamente, certo. Speriamo che qualcuno che ci sta ascoltando ci sia, che venga a darmi una mano. Intanto io la ringrazio per essere stato con noi, Domenico Luppino, per averci raccontato questa storia che viene dalla piana di Gioia Tauro. Abbiamo ancora un paio di minuti prima di chiudere e dare la linea al giornale radio. Allora sentiamo Ennio che chiama da Roma. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sì, volevo dire a proposito del funerale di Casa Monica. Io anche come il precedente ho avuto a che fare con loro un po' di anni fa a causa di mio fratello. Ma dicevo questo, loro praticamente sono una sorta di criminalità talmente sottile che praticamente alle branche in tutta Roma, tutti lo sappiamo, tutti lo sanno, ma nessuno dice o fa niente. Lei consideri che a Roma il turista, la prima cosa che fa, arriva alla stazione Termini, per cui già se lei va alla stazione Termini è praticamente terra di nessuno, perché sono loro che se la gestiscono tranquillamente con i poliziotti che se li guardano. Per cui volevo dire, lì a Cinecittà, quella è terra loro, confina con la Romanina praticamente è casa loro, la circoscrizione di Cinecittà conosce benissimo tutti loro, per cui volevo dire questo, è difficile non capire. Vi dico solo un aneddoto, mi lasci dire. Sì, prego, quando il GIP mi interrogò a proposito di quello che mi successe 15 anni fa, io gli stavo spiegando com'era andata la cosa, con l'usura, con tutte queste storie. Il GIP mi fece una domanda, mi disse: ma da quando in qua gli zingari praticano l'usura? Cioè, lei, secondo lei, come si può perseguire questa gente quando un GIP a me mi fa questa domanda? No, anche perché la domanda doveva farsela a se stesso, non certo a lei. No, ma voglio dire, no, a me mi chiese da quando in qua gli zingari praticano l'usura, anche io gli dissi, dico scusi, forse lei non ha capito, non gliel'avessi mai detto, per poco non arrestava a me. Quindi voglio dire, cioè, cioè ecco. Lei dice che hanno infiltrazioni in qualche modo anche tra, anche nel, tra, la tra i magistrati, possibile? Ma infiltrazioni, più che infiltrazioni io parlo di diciamo di strette conoscenze, che è diverso. Quindi voglio dire, comunque loro sono ammanicati dappertutto. Va bene, grazie, mi devo fermare, c'è il giornale radio, ci risentiamo subito dopo. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Diceva Einstein, è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Indovina chi viene a cena, si occupa di identità e preconcetti, in cucina come negli incontri che facciamo. Ogni settimana ospitiamo un italiano con radici altrove che racconterà la sua storia anche attraverso un piatto. Fra couscous e risotto intorno ai fornelli si parlerà di contaminazioni e false credenze, verso il cibo e non solo. You've got to... Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 23 con Indovina chi viene a cena e quest'estate anche la domenica alle 13.30. Si può fare l'attualità anche d'estate. Ai più grandi ci ha insegnato l'educazione, il rispetto della vita, il rispetto per chi c'hai di fronte, cioè non era un come l'hanno descritto, un mafioso, era un uomo di musica, gli piaceva la musica. I cavalli è un'usanza nostra, perché un'usanza nostra, la nostra cultura non viene da, non si usa adesso la carrozza, è si da usa da un secolo, perché colui che commerciava con i cavalli, colui che commerciava con i cavalli, si intendeva commerciando di cavalli, che quando si andavano i cavalli. Buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, 18 20 e 30 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra poco ricominciamo a sentire i vostri interventi. Queste che avete appena sentito sono le voci dei nipoti, familiari, parenti di Casa Monica, di Vittorio Casa Monica, il cui funerale si è svolto ieri in una maniera assolutamente assurda che avete sentito. Non era un mafioso, era un uomo di musica, ascoltava Bobby Solo, dicono. Tra poco sentiremo altre voci nelle quali si contraddicono pienamente, perché ammettono lo spaccio di droga e le truffe. Ma la questione è, si può dire, senza passare per qualunquisti o per facili, diciamo, persone che criticano così facilmente le istituzioni e le autorità, ma si può dire che è in atto uno scaricabarile terrificante su questa vicenda qua, perché c'è il questore che dice, la questura che dice, nessuno ci aveva avvertito, come se la polizia dovesse essere avvertita delle questioni che contano quando si parla di sicurezza, e questo non mette molta sicurezza. Il prefetto che dice sì, è vero, è successa una cosa che non doveva succedere, però non dite che Roma è connivente con le istituzioni, la prefettura, il comune, con i Casa Monica. Non c'è connivenza. Vuol dire che allora c'è stata una svista, però ditemi voi se è più grave essere conniventi o non accorgersi che a fianco ti sta crescendo, come possiamo definirlo, un tumore schifoso come quello che abbiamo visto ieri, e tu non te ne accorgi. Il ministro dell'interno Alfano, che aspetta la relazione del prefetto Gabrielli prima di aprire bocca, il sindaco di Roma Marino, che dice una cosa, un messaggio mafioso terrificante. Però intanto ieri, qualcuno ha raccontato, c'erano i vigili urbani a dirigere il corteo, quindi il comune di Roma qualche cosa sapeva. Sentiamo ancora i familiari di Casa Monica. Siete, fate il vostro dovere non lo fanno, perché il clan Casa Monica, il loro dovere, che il clan Casa Monica, che loro lo sanno, il clan non esiste, è tutta una macchina. Sì, c'è chi spaccia, c'è chi fa le truffe, però all'ultimo che abbiamo fatto, sempre all'ultimo, sempre fattore di siamo nati dai cavalli, a mano siamo nati avanti. E infine c'è anche la Chiesa, la posizione di Don Giancarlo Manieri, che conferma: lo rifarei, perché non avrei dovuto farlo, è il mio lavoro fare, dire le messe durante i funerali, c'era scritto nel foglio cattolico praticante, quindi niente di strano. Per le scomuniche, come è successo in passato, dice, dovete chiedere più in alto di me, e forse su questo ha ragione. Sentiamo. Ecco, questo è un problema. Ha detto no al funerale di Welby perché probabilmente l'ha considerato ormai fuori della Chiesa. Allora dice, cosa viene a fare? Un esponente di un clan è dentro la Chiesa. Ma finché l'esponente di un clan è dentro la Chiesa, che le devo dire? Vede? Però ci sono state scomuniche papali dei mafiosi, quindi... Sì, bisogna però che lo chiede in alto, non a me. 800 24 00 24, questa è la posizione del parroco Don Manieri, ma finché la Chiesa non si riesce con una posizione più ufficiale, la posizione della Chiesa sui funerali avvenuti ieri a Casa Monica a Roma. Questa settimana che si chiude stasera ci consegna anche, come dire, l'ultima curva della strada del percorso politico di un leader che ha tenuto col fiato sospeso l'Europa, Tsipras. Sentiamo nell'ordine: Belpietro, Pomicino e terzi della Lega. È un gran furbacchione Alexis Tsipras, perché uno che si è fatto eleggere promettendo sfracelli contro l'Europa e dicendo che avrebbe respinto i diktat della Germania, è uno che ha chiesto un mandato forte, ha voluto un referendum per dire no ad un accordo che aveva negoziato per 5 mesi, dopodiché si è presentato alla trattativa e messo alle strette, messo con le spalle al muro, ha accettato un piano pesante. La scelta che ha fatto Tsipras, a mio giudizio, è una scelta coerente con tutto il suo comportamento che ha fatto prima. Nel referendum Tsipras ha internazionalizzato il problema della Grecia. Dopodiché, avendo dovuto fare di necessità virtù, come si suol dire, va giustamente alle elezioni perché quel tipo di accordo ha spaccato il suo partito. Allora delle due l'una: o trova all'interno del Parlamento nuove alleanze o si va alle elezioni per ricercare un nuovo assetto politico. Non è la prima volta che come scuole politiche della Lega Nord ospitiamo personaggi importanti. Lo scorso anno abbiamo fatto un convegno, un giorno intero dedicato alla flat tax con ospiti internazionali, quindi direi che ci sta assolutamente anche Varoufakis. La Lega Nord si apre sempre di più a quello che è un confronto internazionale, quindi la sua attività ha un respiro che non è più solo quello della Lombardia e del Veneto, come era forse nella mente di qualcuno. Sottomette non solo per denaro, il somaro va avanti e indietro, da casa al cimitero, lo psico pipistrello evita la luce, il mulo porta il padre e non si riproduce, il coccodrillo in cerca sempre di una preda, la preda fa di tutto perché lui la veda, Parliamo di un animale che sta mettendo in guardia un po' tutti. Sono sempre vissuti nei nostri boschi, ora però sono aumentati a dismisura, minacciano le persone. I comuni promettono abbattimenti, gli agricoltori lamentano i danni che fanno questi predatori, gli animalisti accusano i cacciatori di aver voluto ripopolare i boschi di cinghiali. Ne parliamo con Roberta Castiglioni. Buonasera. Salve a tutti. Naturalista e zoologa. Allora, sì, intanto quanti sono questi cinghiali? Qualcuno ha scritto, è difficile dirlo. Un milione, sì, di cinghiali, diciamo, sì, fuori controllo in qualche modo. Sì, le stime sono più o meno quelle, anche se è molto difficile dare dei numeri precisi, se si sta, diciamo, su numeri tra i 600.000 individui e il milione, forse è quasi sovrastimato. Forse però comunque ce ne sono tanti. Però c'è un allarme, insomma, come dire, eccessivo rispetto magari ad altri momenti. So che l'estate, tra l'altro, è un periodo sì, esatto, in cui la notizia fa notizia. Non solo, ma anche per gli animali stessi. Ho letto da qualche parte che l'estate può essere, non so per quale ragione. No, ma in che senso? Può renderli più aggressivi, perché tra l'altro sono cinghiali, allora, non strani, è vero? Cioè sono... Sì, allora dunque, no, allora, sicuramente il periodo, soprattutto primaverile, primavera estate, è un momento delicato, perché comunque la maggior parte degli animali nasce, no? E quindi anche per il cinghiale in questo momento comunque ci sono i cuccioli di tanti animali, per cui la tendenza poi delle madri è quella di protezione. Quindi forse, c'è un po' di più di movimento. Forse di poi i boschi, ecco, questo è il motivo. I boschi con meno acqua si prosciugano e quindi loro vanno a cercare da mangiare fuori dai boschi, si spostano. Sì, certo, sì, sicuramente sì, si spostano. Poi c'è anche molto movimento comunque del turismo nelle aree appunto boschive, e quindi comunque gli animali si spostano e cercano il loro... ciò che gli serve. Insomma. Ecco, ma come può sembrare, diciamo, ridicolo, ma come bisogna, sì, comportarsi qualora, perché è successo, per esempio, ieri un cinghiale è andato addosso a una macchina, lì è difficile prevederlo, sì, però insomma, in generale, l'incontro col cinghiale come ci deve trovare preparati? Beh, dunque, ci deve trovare preparati, questo infatti è un argomento che dovrebbe essere trattato già sicuramente anche dentro le scuole, fin da ragazzini, siccome noi comunque sul nostro territorio italiano di fauna selvatica ne abbiamo parecchia, non è soltanto proprio la questione del cinghiale, ma un po' di tutti gli animali, no, con i quali ci troviamo e troveremo sempre più in contatto, che vanno dall'orso al lupo, ai caprioli e via dicendo. La conoscenza della fauna, il comportamento che si dovrebbe avere, dovrebbe proprio essere insegnato comunque nelle scuole. Sicuramente se si incontra un cinghiale, senza dimostrare grossa paura, bisogna tentare di allontanarsi, però in, sì, questo caso, che è quello al quale ci rifacciamo, il recente, no, dell'uccisione del signore che ha tentato di difendere il proprio cane, sì, è da sottolineare che non è stata un'aggressione nei confronti dell'uomo, perché il cinghiale non ha in genere una motivazione, non fa parte dello spettro alimentare. Però ecco, questa cosa dell'uomo, che si dice, ecco, quindi il cinghiale non si nutre dell'uomo, per, no, cui non è aggressivo dal punto di vista famelico, però no, c'è questa fama del cinghiale come animale che, cioè, può essere aggressivo. Può essere aggressivo, sicuramente è più aggressivo di altri animali, soprattutto se le femmine hanno i propri cuccioli, sì, magari non è un animale che prende e scappa subito all'improvviso, ma tenta di monitorare ed è anche capace di caricare comunque per difendere il proprio piccolo, come è successo tra l'altro in questo caso nei confronti dei cani che abbaiavano, sì, e le mamme, zia, quello che era, hanno tentato di difendere i propri cuccioli aggredendo il cane, poi l'uomo è intervenuto per difendere il proprio cane e a catena si è creato poi tutto quello che si è creato. Ecco, sono, ma, sì, eventi che avvengono, cioè sono cose che succedono, per fortuna comunque non così spesso, perché altrimenti, sì, non andrebbero neanche nella cronica o nella cronaca, sì, o non farebbe notizia se una cosa. Però una a cosa questo punto, scusi, però a questo punto ci sono state già diverse vittime quest'estate per un motivo o per l'altro. Sì. Secondo lei è giusto procedere ad abbattimenti, come hanno detto che vogliono fare in diversi comuni, a cominciare dalla Sicilia, credo, ma forse anche Padova? Dunque, allora, i piani di abbattimento ci sono, vengono fatti, ci sono dei periodi dedicati alla caccia della specie, in questo caso si parla di aumentare il numero di capi che dovrebbero essere abbattuti, ma è un argomento, come dicevo prima, spinoso, perché comunque qualunque cosa dica, sono praticamente centrata tra coloro che si occupano di gestione faunistica e che ovviamente la vedono in un certo modo, e cacciatori che poi attuano nella pratica la cosa, e dall'altro comunque gli animalisti, gli ambientalisti, eccetera. Quindi una posizione, una domanda abbastanza difficile. Diciamo che secondo me al di là del fatto che andrebbe valutato il perché il cinghiale oggigiorno si trova in una situazione di questo tipo, sì, perché non è il nostro cinghiale autoctono, comunque è un animale che la maggior parte dei capi sono quelli che sono stati immessi a scopo di venatorio, no? E quindi negli anni 70, negli anni 80, in quei periodi prelevati dall'est europeo, soprattutto dall'Ungheria, quindi comunque animali che spesso provenivano anche da allevamenti, quindi più grossi e stazzati dei nostri, con una capacità riproduttiva superiore e che, essendo animali allevati, hanno anche meno paura dell'uomo. Questo è un elemento importante, perché comunque c'è un qualche cosa di artificiale in un certo senso in questi cinghiali che noi oggigiorno ci troviamo sul nostro territorio, e spesso sono anche ibridati, perché nel periodo in cui il cinghiale è sparito dal nostro territorio italiano, dal Medioevo in poi, nel 500, nel 600 non c'era più il cinghiale, sì, comunque ce n'erano pochissimi capi, l'uomo aveva la libertà di muoversi come gli piaceva e quindi di lasciare anche allo stato brado l'allevamento dei propri animali, tra cui i maiali. Quindi i maiali vivevano liberi nei boschi, nei campi, eccetera. Poi quando hanno iniziato a incontrarsi coi primi cinghiali che sono sopravvissuti, che hanno ricominciato a ritornare sul territorio quando l'uomo ha lasciato la collina e la montagna e sono tornati i boschi, si è incontrato con i maiali e si sono ibridati tra di loro. Quindi comunque ci sono degli esemplari che sono un po' diversi da quello che è era il cinghiale autoctono, con delle caratteristiche anche di relazione all'uomo differenti, quindi comunque più pesanti, più grossi, più riproduttivi, sì, e anche più confidenti. Mi devo fermare un attimo per le informazioni di borsa, però poi voglio tornare, se ancora due minuti per stare con noi, Roberta Castiglioni, naturalista, zoologa, lo voglio ricordare, ricercatrice del Centro Studi Faunistica della Società Italiana di Scienze Naturali, per farle una domanda scientifica. Esistono gli animali vegetariani? Perché poi le farò sentire le voci di alcuni ascoltatori, l'altra sera si è scatenato un dibattito proprio su questa ipotesi, animali vegetariani. Borsa. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Il cane sottomette non solo per denaro. Vedo maiali molto setolosi, pelosi, selvaggi. Sono cinghiali? Cinghiali. Evita la luce. A forza di sentir parlare animalisti vegetariani, ho deciso, divento vegetariano anch'io. A una sola condizione, sì, che tutti questi animalisti, e poi sono canari, gattari, riescano a convincere i loro animali a diventare vegetariani come noi. Quasi quanto i santi. Io volevo dare una buona notizia innanzitutto al signore di Siena, se non sbaglio, che può diventare immediatamente vegetariano, perché io ho tre cani. Era Piero, gatto. Piero da Firenze, sì. Sì, ecco, ho tre cani e un gatto che sono assolutamente vegetariani, che sono delle marche che producono proprio linee vegetal, ma non solo, le dirò, sono anche delle linee vegane. Eccoci qua, Roberta Castiglioni. Allora, sì, ecco, è tutto vero, tutto vero quello che ha sentito, a parte Abbatantuono, che era un film, sì, il resto è tutto vero. Allora, noi sappiamo, ci sono gli animali erbivori, però qua stiamo parlando di un'altra cosa, cioè di animali che diventano vegetariani. È praticabile questa cosa, secondo lei? Allora, è praticabile perché so che questa cosa c'è e che qualcuno lo fa. Sicuramente lo fa in buona fede, probabilmente perché è un vegano e un vegetariano, però poi il mio parere personale, ma è un parere assolutamente personale, per questo che mi chiedete, io non... è una cosa che, con tutto il rispetto, però non condivido, ecco. Anche non perché bisognerebbe è una forzatura per gli animali, perché bisognerebbe chiederglielo, allora, esatto, se sono d'accordo. Perfetto, oppure. Abbiamo raggiunto già esattamente l'obiettivo, che è quello che si può proporre, però non imporre. Quindi penso che madre natura faccia le cose giuste, perfette, proprio perché siamo soggetti alla selezione naturale. Quindi comunque cane e gatto sono degli animali carnivori, hanno una dentatura da carnivoro. Il gatto poi è un felino, il cane è un lupo, per cui insomma devono mangiare per forza carne, no? Sì, soprattutto il gatto in particolare, perché la sua alimentazione della carne presenta oltretutto una sostanza che il gatto non riesce a sintetizzare per conto suo, la taurina, e questo, se viene a mancare, può portare l'animale a cecità e morte. Sicuramente viene integrato in questi cibi come prodotto sintetizzato, però al di là di quello poi esiste anche la questione del gusto, insomma voler bene a un animale secondo me significa anche poi rispettare in un certo senso la sua natura. Quando uno decide di fare il vegano o il vegetariano fa un proprio percorso, una propria scelta che non credo che sia corretto dover allargare agli altri. Già è difficile allargarlo agli esseri umani, allargarlo ai propri animali è un'imposizione. Figuriamoci al gatto che rischia anche di morire, perché se non mangia, come sicuramente dicevo. Non voglio dire che i gatti tirati su in maniera vegetariana muoiano, però sicuramente anche se sembrano magari apparentemente star bene c'è un rischio, perché noi sappiamo benissimo, per i vegani soprattutto ma anche per i vegetariani, che noi esseri umani dobbiamo essere molto monitorati nella nostra alimentazione, se ce l'abbiamo vegana o, non è il mio caso, o vegana o non ci vegetariana, sarebbe niente di strano. No, esatto, cioè pieno ormai di persone, però si fanno monitorare, si fanno degli esami, le stesse cose andrebbero fatte al cane e al gatto in questo caso, perché ovviamente il rischio di uno squilibrio alimentare è veramente molto molto probabile, possibile, ecco. Al di là del fatto che comunque insomma penso che per un gatto mangiare una bella ciotola di pesce o di carne sia sicuramente di maggiore soddisfazione, del resto vanno più fuori, gustoso sicuramente più gustoso. Non so adesso cosa potranno fare gli animalisti che ci ascoltano, però è questa che non ce l'abbiano con me, perché io li rispetto tantissimo, soprattutto per la loro scelta morale, nel senso che lo fanno sempre per un grande amore per la natura, e questo comunque è bellissimo, e per fortuna che ci sono tutte queste persone che comunque stimolano molto negli altri questo senso di amore per la natura, rispetto della natura a modo loro, e però è bellissimo. Ma ecco, però va valutato poi anche l'aspetto sanitario e tutto il resto. Va bene. Grazie Roberta Castiglioni, grazie per essere stata con noi. A presto, arrivederci, salve. Nella tradizione cattolica, che si rifà anche alla filosofia di Aristotele, eccetera, cioè l'anima infusa nell'uomo è fatta da Dio, è Dio che ha fatto tutta la creazione. E anche gli animali nella loro specie hanno una certa anima animale, come i vegetali, un'anima vegetale, perché è il mondo dove c'è la vita. Però non possiamo mettere tutto sullo stesso piano, non possiamo pensare che gli animali abbiano gli stessi diritti dell'uomo. E questo invece con cui abbiamo chiuso era l'audio di Don Daniele Forte di Porcia, che abbiamo sentito l'altra sera e che ha detto quello che avete appena sentito, la gerarchia delle anime. Gli animali vengono dopo, non bisogna maltrattarli, naturalmente, anzi figuriamoci, però vengono dopo nella gerarchia delle anime, dopo gli esseri umani, e soprattutto ha detto Don Forte, non bisogna idolatrarli. Andiamo con gli ascoltatori. Giovanni da Ancona, buonasera. Sì, buonasera, grazie per farmi intervenire su questo argomento, sì. Perché posso dire veramente le cose di un certo rilievo. Allora, io sono un amante della natura, la pratico, ci vivo, perché ho una casa sui Sibillini. Uh-huh. I Monti Sibillini, fuori Roma? Monti Sibillini, no, fuori Roma, sulle Marche, ma sì, zona alta delle Marche, sul versante ascolano, della parte che poi c'è il versante di Norcia e Perugia, sì. Poi c'è a Canterte, attaccati ai monti, diciamo, Sibillini, vi sono i Monti della Laga. Vabbè, adesso ci ha fatto una lezione di geografia, eccetera. Giusto perché io ho sbagliato a collocare i Monti Sibillini, però le voglio dire ci dica, questo, sì. Perché dico tutto questo? Perché il Parco d'Abruzzo, Parco della Laga, Monti della Laga, Parco dei Monti Sibillini, mm-hmm. è un insieme che ha ridato finalmente voce a tutte quelle specie animali che erano in via di estinzione. Tipo? Quindi noi abbiamo il lupo, l'orso, abbiamo l'istrice, abbiamo di nuovo il tasso, abbiamo di nuovo il cinghiale. Cinghiale. Ma non avete problemi, come è successo? Tanti. Scusi, certo, non avete problemi. Ci sono i problemi. Però per esempio, che problemi? Le dico una cosa, il cinghiale fa una cosa che non fa nessun altro animale. Il cinghiale mangia la vipera, il cinghiale mangia la serpe, il cinghiale mangia le ghiande, il cinghiale mangia le castagne. Il cinghiale si mangia però anche le vigne. Allora, il cinghiale, stia bene tranquillo, da noi la campagna è finita. L'hanno distrutta quando governo. La campagna è finita, però i cinghiali danno una mano a finirla. Ma fanno bene. Ma come fanno bene? Scusi, uno coltiva la vigna, la vite, e se la deve vedere mangiare dal cinghiale. Scusi. Ma cosa vuole che mangi il cinghiale? Ma come cosa vuole che mangi? Mangiano le piante, mangiano tutto. No, le faccio. io ho coltivo, sì. Coltivo, ma io non sto dicendo che il cinghiale non ha diritto, scusi un attimo, mi ascolti un attimo, io non sto dicendo che il cinghiale non ha diritto di esistere in zone protette e tutto quello che vuole, sto dicendo che qualora la situazione non sia gestita in una maniera, diciamo, ottimale, veda lei, succede che questi animali rovinano anche l'agricoltura, il lavoro di tante persone che si fanno un mazzo così, e questo non va bene. Questo è quello che penso io. Poi fanno i danni, sì. Poi loro chiamano la forestale interviene, valuta il danno, alla fine il contadino ci guadagna. Perché le posso dire questo? Io ma non è così, guardi, questa storia dei rimborsi, non è così. In prima persona, glielo dico io, l'ho vissuta io. L'anno scorso era un campo di Gran Turco, sì. Che faceva, se no, una trentina di quintali di Gran Turco. Sì. Sono arrivati i cinghiali, hanno fatto il loro lavoro, io ho raccolto circa 15-20 quintali, non ci sono arrivato a 20. Sai quando mi hanno ridato? 300 euro. Cioè, io ho comprato... Con 300 euro compravo. Lei è fortunata, io conosco delle persone a cui non hanno ridato nulla. Comunque le posso dire una cosa, sì. Posso dire. Noi dobbiamo essere contenti che c'è, purtroppo, con l'avanzare dei che bossi, ci sia il cinghiale, che ci sia il lupo, che ci sia l'orso. Sì, ma certo che dobbiamo essere contenti, però scusi. Il cervo, il lupo. È sì. Qualcosa di straordinario. Che poi la cosa vada in un certo modo regolata, su questo non c'è un dubbio. Regolata quando va fuori squadra vuol dire anche con abbattimenti. Sì, ma infatti sono tutte delle squadre di cacciatori che sono organizzati per abbattere un certo numero di animali. Però allora scusi, bisogna forse riflettere sì. Un attimo se su questa questione qua, cioè ripopoliamo le zone faunistiche e poi dopo se ce ne sono troppi perché non c'è la giusta catena alimentare, perché manca il lupo per quello che vuole, poi dopo bisogna abbatterle. Allora forse prima di ripopolare bisogna pensarci. Non il lupo, il cinghiale chiaramente, sì. Però c'è anche un aspetto positivo, che queste carni sono estremamente interessanti dal punto di vista nutrizionale, perché sono carni magre, quindi praticamente hanno un valore aggiunto. Quindi non è detto che tutto questo sia proprio negativo. No, però come lo sta dicendo positivo. Lei, sì, però ci rischia di diventare un tiro al piattello. Io non ho nulla contro la caccia, però se noi ripopoliamo i boschi e poi ci piazziamo i cacciatori a sparare, allora questo diventa semplicemente un divertimento noi per i cacciatori. Siccome dobbiamo controllare, perché non si può non avere il controllo sulle situazioni, quello che lei diceva, che poi i cinghiali fanno danno, ma è successo sempre. Oggi, perché abbiamo la situazione internet, ci permette di sapere in tempo reale tutto, naturalmente siamo a corrente degli incidenti minimali che succedono. Però voglio dire, ben venga la presenza di una fauna. Va bene Giovanni, grazie per questo suo intervento, il suo punto di vista è giustissimo e come lei la pensano anche molti altri. Guido da Cuneo, prego, buonasera. Buonasera a lei. Prima vedevo il Monviso, adesso ho sentito un po' di trasmissione per telefono, adesso le nuvole l'hanno coperto, comunque era bellissimo. Ah, che bello, e lei lo vuole condividere con noi, vedeva il Monviso, sì, dove ci troviamo, visto che prima ho sbagliato i Monti Sibillini. Io sono di un paesino vicino ad Alba, quindi la capitale delle Langhe. Sì, e da Alba si vede il Monviso quando è bel tempo? Da Alba c'è uno spettacolo da pelle d'oca, che sono le montagne con la neve, è interessante. L'ultimo signore... Non le dico che è di parte, questi discorsi così complessi bisognerebbe proprio farli con le parti opposte, perché da noi si dice ancora adesso, quando si spaventano i bambini, attento che ti va il lupo. Quindi il lupo adesso è una pensano alcuni che sia una risorsa, ma va affrontato con molta molta molta attenzione, perché io conosco pastori in montagna dove ci vado per i miei divertimenti, e gente che è veramente in difficoltà con questa nuova invasione di animali che vanno a uccidere, sì. e disturbare. Comunque è un discorso che va non così velocemente per telefono. Comunque è giusto il suo ragionamento, ma un equilibrio, il controllo sia della caccia sia degli animalisti andrebbe fatto veramente, cioè dovremmo fare tutti quanti un passo in più. Va bene. Questo è uno, ma io ero intervenuto prima sul discorso di quel funerale così farsa, semplicemente sì. Per dire una cosa e non rubare spazio agli altri. Sarebbe il caso che, come ha fatto Franceschini ultimamente, andassimo a pizzicare delle persone normali a posto, dei questori o dei prefetti di altre nazioni, che vengono qui e che facciano semplicemente il loro dovere e che non siano obbligati a sottostare a purtroppo collusione. Facciamo un concorso, un bando internazionale anche per i prefetti. È certo, la cosa che faceva infuriare Sgarbi l'altra sera. Era la cosa che faceva infuriare Sgarbi l'altra sera, che diceva: non è possibile un concorso. Pensi cosa succederebbe per i magistrati, pensi cosa succederebbe per i prefetti. E lei invece, giustamente, ma provocatoriamente, lo evoca un bando internazionale per i prefetti. Allora andiamo con Amalia, che chiama da Roma. Buonasera. Buonasera, eccomi qua. Prego. Volevo soltanto dire, come cittadina romana, sono quantomeno indignata per moltissime cose, ma questa ha proprio raggiunto l'apice del carrozzone che guida questa città. I vigili urbani, il corpo dei vigili urbani, sì, che ieri ha scossato il feretro, è lo stesso corpo dei vigili urbani che fa da guardia spalla ai bimbi di un noto calciatore romano. Totti? Lui è venuto fuori con... Sì, però scusi, non è la nonna dei bambini che fa il vigile? Forse è questo. No. C'è stato un equivoco, no? Ho letto così. No. Cioè, io lei mette sullo stesso piano... lei dice che Totti, i figli di Totti... No, scusi, non ho capito. Cioè, lei dice i figli di Totti sono scortati dai vigili di Roma e questo non va bene. No, certo che non va bene, perché i miei figli non lo sono, o quantomeno i miei figli dovrebbero essere alla stessa stregua dei figli. Ha ragione. Okay. Io dico solo che ho letto. Io pago le tasse. Sì, io dico solo che ho letto. Lei. Scusi, io e dico solo che ho letto che la nonna di questi bambini fa il vigile. Quindi qualcuno ha frainteso. Ho voluto frainteso. Non lo so, non sono di Roma. Sì. Io sono di Roma, vivo in centro storico della città. Beata lei. Però scusi, a lei mette sullo stesso piano quell'episodio con quello che è successo ieri? No, fa parte dello stesso carrozzone, siamo sempre sotto la stessa tenda da circo. È questa la cosa che mi fa indignare. Mi indigna il fatto che siamo sotto lo stesso carrozzone. Il mio sindaco, quello che è stato eletto sindaco, twitta da New York. Il prefetto è fuori, i vigili scortano la banda e il feretro, faccia l'anima sua, però siamo sempre, qualcuno dovrà comandare questa gente. Chi comanda? Se il sindaco è fuori, il vice sindaco non sa, il prefetto è in vacanza, ha ragione. Le autorità locali, quelle presenti sul posto, viene data l'autorizzazione a scortare un feretro? Ma è clamoroso. Il prefetto che dice non è stata una svista, la questura che dice non sapevamo, è una cosa incomprensibile. Ma le stesse sviste, guardi, noi a Roma purtroppo le vediamo da troppo tempo. È veramente, è questa l'indignazione. Va bene, Amalia. Grazie. Per i figli di Totti, non so, sì, era un'intercettazione di, credo, di Mafia Capitale, c'era dentro anche quello. Si parlava dei figli di Totti scortati dai vigili. Andiamo. Anzi, adesso è il momento di introdurre un altro ospite. Pretty woman walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. Ordinanza vorrebbe imporre il giubbotto catari frangenti alle prostitute. È una ordinanza fantasiosa, chissà se finirà nel nulla come è successo già a molte ordinanze prima di queste. Chi lo sa, ne parliamo con il suo autore intanto, il sindaco di Spino d'Adda, Paolo Riccaboni. Buonasera. Buonasera. Sicuramente un'ordinanza fantasiosa, ammetterà. Allora, in Italia dobbiamo parlare innanzitutto di qual è il problema e di quali mezzi hanno le amministrazioni locali. Giusto, partiamo dal problema. Il problema è la prostituzione per strada. Il problema è il commercio di schiavi. Sì. Il problema è il commercio di schiavi, con ricadute dal punto di vista sanitario, fiscale, di decoro del territorio, e di rifiuti e di quant'altro. Questo è il problema innanzitutto. La legislazione nazionale... Rifiuti nel senso, mi scusi... Rifiuti sanitari a terra, rifiuti... Preservativi utilizzati e buttati in terra. Di qualsiasi tipo, anche di altri tipi, anche di consumo di cibo, eccetera. Mm. Quando si mira alla pulizia del territorio, anche questo è un tipo di rifiuto. In Italia, come sempre, la legislazione, come sempre, come talvolta, la legislazione nazionale può essere carente o a maglie larghe, e quindi con amministrazioni locali si cerca di far fronte con quello che io chiamo talvolta, perché non vengo dalla politica, come tutta la mia giunta, chiamo pensiero laterale. Cerchiamo sì. di aggredire il problema in modo da... Bella questa, pensiero risposta, laterale. Mm. Di dare una risposta che non sia quello tortuoso. Non evidente, non scontata, non, esatto. Non fare le cose che sono sempre state fatte, altrimenti i problemi intanto, rimangono sempre lì. Però mi scusi... L'obiettivo è in vigore sì. un'ordinanza sì. che punisce chi sfrutta la prostituzione, e questo dà già un vantaggio alle forze dell'ordine. Però questo non è già reato? Non è già reato questo, senza ordinanza? In Italia, chi sfrutta la prostituzione, mi pare di sì. Sì, ma in un senso diverso, anche qui parliamo sempre di un modo diverso. Chi va con una prostituta da noi con ordinanza è passibile di pena. Di una multa? Di multa, esatto. Quanto prende la, di multa? 500 euro. Ok, però scusi, a questo punto io le chiedo, poi lei, il problema l'ha detto, l'ha chiarito, c'è già un'ordinanza che multa il cliente della prostituta, ma il giubbotto catarifrangente, io non ho capito, a cosa servirebbe? A garantire la sicurezza stradale, cioè per evitare di mettere sotto le prostitute o cosa? Perché... Parliamo di strade provinciali sì. ad alto volume di traffico. Quindi il distrarsi, il fermarsi può causare danni a sé e agli altri. Quindi non vedo perché uno stradino non debba tenere un catarifrangente o un abbigliamento adatto, e invece altri che sostano, perché l'ordinanza in gestazione sarà generica, non debbano rendersi visibili. Quindi anche il cliente che esce, anche il cliente che esce dall'auto, in caso deve mettersi il giubbotto. No. Non stiamo parlando di questo. Le ho detto che l'ordinanza è generica, quindi chi sosta, l'idea è chi sosta. Chiunque sosti, deve, compreso il cliente che sta trattando magari con una prostituta. Di coloro che hanno l'auto in panne e che quindi sì. sono soggetti al codice della strada, devono rendersi visibili in modo da non arrecare danno a se stessi o agli altri. Uh-huh. Questa è l'aggiunta all'ordinanza già in vigore. Poi lei vuol mettere anche i pantaloni dopo le 20 alle donne che non ho capito bene se transitano o sostano lungo certe strade? Allora, è chiaro che la visibilità diurna è diversa da quella notturna, se non sbaglio. Sì. Quindi, se di giorno sono necessari o sufficienti alcuni accorgimenti, di notte questi accorgimenti devono essere implementati. Quindi? Quindi, oltre che il giubbetto, maniche lunghe, anche i pantaloni. Ma mi spieghi meglio questa ordinanza, perché detta così sembra una cosa che nemmeno in Iran si pensa di imporre i pantaloni alle signore, credo. No, dopo lei una sta certa... sbagliando completamente, sì. sta parlando di imposizione. Sì. Chiunque fa quello che vuole, stiamo parlando di persone che sostano su strade ad alto volume di traffico. Sì. Lei sa benissimo che se l'auto è in panne deve scendere, mettere il triangolo e mettere un giubbetto catarifrangente, e lo sa meglio di me. Quindi non vedo perché qualcuno debba sottrarsi. No, ma io parlavo dei pantaloni adesso, a proposito del paragone con l'Iran, l'ho fatto un po' scherzando, perché chiaramente certo, è una situazione diversa, per fortuna. Però, per fortuna, infatti, certo. Io vengo da un pensiero liberale, quindi assolutamente il contrario. Però io non ho capito bene, l'obbligo di pantaloni quando scatta, secondo l'ordinanza? Scatterebbe nelle ore notturne. Per le donne? No. Per tutti? Anche certo. gli uomini? Le ho detto che non è un'ordinanza, è un'ordinanza generica, per cui chiunque sosti al di fuori di un discorso di auto in panne sì. deve rendersi assolutamente visibile. Ma scusi, ma cosa c'entra il pantalone lungo con rendersi visibile? Capisco il catarifrangenti, ma il pantalone lungo non riesco ad associarlo al fatto allora, della visibilità. Il pantalone lungo è un'ipotesi di un altro comune, non è il vostro. San Genesi Uniti nel Pavese. Okay. La nostra ordinanza, come le dicevo, è in fase di gestazione, ma non escludo che ripercorra le stesse orme per quello che è questo aspetto. Noi veniamo da una storia diversa, abbiamo già un'ordinanza in vigore che pena lo sfruttamento, che penalizza lo sfruttamento della prostituzione. Vogliamo rendere e dare alle forze dell'ordine un qualcosa in più, e quindi vogliamo aggiungere anche questo aspetto perché abbiamo visto che sulle strade provinciali è pericolosa la sosta. Ma le ripeto la domanda, qualora voi decideste di seguire le orme del comune vicino, perché sì, i pantaloni rendono una persona più visibile che non una minigonna o i pantaloni corti? Questo non riesco a capirlo. Catarin frangenti stiamo parlando, eh. Ecco, pantaloni catarin frangenti, quindi sopra e sotto. Scusi, non avevo capito. È certo, proprio questa certo, la questione. Quindi scusi, bisogna ma perché il giacchetto catarin frangenti si trova, ma i pantaloni dove, chi li fornisce? Il comune? No. Assolutamente no. A carico di chi vuole fermarsi su strada sperando che non si fermi da noi. Va bene, ma è curiosa questa cosa, perché se io vengo da un altro comune fuori e mi devo fermare per qualche motivo lì e non ho questi pantaloni, le regole del codice della strada, sì, devo ferma chiunque in Italia ha intenzione di passare da lì deve avere i pantaloni catarifrangenti. Questo è mettere sul banalizzare una cosa. Vi ho detto, l'argomento è ben altro, l'argomento è un tema ben più alto che quello del commercio di schiavi, sì, e del tentativo di porre rimedio a una legislazione assente. Quindi questo è il tema. Il fatto di scoraggiare questa cosa sul territorio e le sue ricadute mi sembra uno scopo da perseguire. I miei cittadini vogliono che venga perseguito e io, per quanto possibile, me ne farò interprete. Se lei viene da noi, non penso che si fermi lungo la strada. Non lo so. Io ho solo fatto un'ipotesi. Portandosi il pantalone da casa, sono certo che non lo farà, andrà ben altrove. Non lo so, era solo un'ipotesi, staremo certo a vedere. Ma comunque l'ordinanza non c'è ancora. No, l'ordinanza è in gestazione, ma ha avuto già molta eco, all'inizio non lo comprendevamo, adesso ci rendiamo conto che il problema probabilmente è più sentito di quello che si pensava. Però io la prostituzione su strada e il commercio di schiavi con le ricadute fiscali e sanitarie è un problema da affrontare. Se non lo affronta la legislazione, cerchiamo di affrontarlo a livello locale per quella che è la nostra competenza. Ma lei pensa che col giubbotto catarifrangenti indossato le prostitute sarebbero di meno, o meno ci sarebbe meno sfruttamento del sesso, che è il problema da cui siamo partiti? Io penso che questo sia un deterrente a sostare sul nostro territorio e che sia uno strumento per le forze dell'ordine per intervenire e controllare il territorio, tanto che con due segnalazioni in sei mesi la procura ha la possibilità di allontanare la persona dal territorio. Va bene, grazie. Grazie al sindaco di Spino d'Adda, Riccaboni. Avete sentito la proposta, che insomma gestazione, però giubbino catarifrangenti e pantalone catarifrangenti dopo le 20 a chiunque sosti lungo le strade insomma provinciali della città, in provincia di Cremona. 800 24 00 24 vi ha convinto oppure non vi ha convinto? Andiamo con Roberto che chiama da Roma. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Per quanto riguarda il funerale, l'autorità in pubblica sicurezza locale avvertita dai sindaci poteva benissimo, dato che si era trasformato in una manifestazione, chiedere se erano autorizzati dalla questura, poiché autorizzazione alla manifestazione tale è stata presentata anche dalla stampa mondiale addirittura, allora dovesse sciolta la manifestazione e consentire naturalmente alla bar di raggiungere però la chiesa e far celebrare i funerali. Era, naturalmente la manifestazione doveva essere interrotta per mancanza di autorizzazione, come effettivamente era e come è stato. Ma certo, sì, è così. Però così non è andata. Grazie Roberto, buona serata. Angelo da Milano. Angelo, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io vado molto sul semplice. Sì. A proposito del funerale di ieri a Roma, sì, del signor Santa Monica. Senta, niente, io ho visto delle immagini, delle foto che girano sul web dove ho visto che i signori erano aiutati nel traffico dai vigili, possiamo dire così. È una cosa che comunque ci fa fare l'ennesima figura a livello internazionale, perché abbastanza, nessuno sapesse niente di questo, perché non si mandano i vigili che all'improvviso. E guardi, anche se non voglio essere maligno, però mi viene da pensare che sia l'ennesimo regalo. Lo sentiamo malissimo, Angelo, ci fermiamo, c'è la pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua allora con gli ascoltatori, riprendiamo a sentirli e andiamo con Maria che chiama da Bari. Buonasera Maria. Buonasera. Prego. Senta, le volevo dire, mi sono sorti dei dubbi per quanto riguarda questo funerale, sì. Che è diventato famosissimo a livello mondiale. Niente, per me, voglio dire, un funerale come tutti gli altri, di una persona che ha vissuto, ha fatto degli errori come tante persone importanti, probabilmente. Un funerale penso, come tutti gli altri, gente. Lei aveva mai visto un funerale con la carrozza trainata in quel modo? Beh, con i manifesti. Comunque dalle parti nostre si fanno ancora questi funerali, sì, diciamo, sì, al meridione. Non crede che che essendo lui la persona che era sia stato anche un fatto simbolico molto, come dire, dal mio punto di vista molto preoccupante, ma comunque molto forte. Sì, questo sì, però quello che voglio dire, sì, è che comunque ci sono anche nella storia dei personaggi molto forti quanto questo. Uh-huh. Non è che io voglio prendere parte della mafia assolutissimamente, perché però non ci sono scusanti, però comunque penso che davanti a una morte non si debba fare tanto furore, magari anche perché ci sono tanti problemi più grandi in Italia. Ma scusi, però io non la seguo Maria, perché nessuno di fronte alla morte fa chissà che tipo di discorsi. Qua non è la morte, è il modo in cui è stato celebrato il funerale. Sì, però voglio dire, ci sono tanti, un modo sfarzoso, un modo di altre persone, sì, anche politici, dove hanno fatto sfarzo. Non è che siccome questa persona era sì, un però boss, un politico che fa sfarzo, un politico che fa sfarzo, ma che non ha ammazzato nessuno o che non ha fatto le estorsioni, non ha spacciato droga. Qua stiamo parlando di uno che il suo clan questo fa: estorsioni, truffe, spaccia droga, eccetera, eccetera. Ma ci sono molte estorsioni che vengono anche dallo Stato, eh? Si sente sempre allora? La mafia capitale collegata con lo Stato. Dico che comunque quello che voglio dire io, non sto parlando della persona in sé per sé, sì, è di questa notizia che sta facendo tutto questo successo. Secondo me non era il caso, forse era meglio fare. E cosa dovevamo fare? Cosa bisognava fare? Il silenzio, fare finta di nulla. No, farlo passare come un funerale normale, perché magari i parenti hanno deciso di portarlo in carrozza. E se penso che ci dobbiamo anche chiedere, sì, perché c'era tanta gente a quel funerale, probabilmente. Guardi, se noi facevamo finta di nulla, Maria, e per caso invece qualche giornalista straniero, qualcuno faceva arrivare questa notizia fuori, avrebbero detto che non solo a Roma si fanno i funerali del boss mafioso come in un film di Hollywood, ma nessuno dice niente, e che quindi tutta Italia è in qualche modo silente di fronte a questa cosa qua. E questo è quello che sarebbe successo. Non credo che non comunque credo. La maggior parte degli italiani non avranno comunque approvato, ma quello che voglio comunque dire io non è neanche questo, è che fare tutta questa notizia non ha neanche va tanto bene, senso. Ho capito, cioè, Maria, io non sono d'accordo fatto con lei e le ho detto perché, quindi che ci devo fare? Non ha senso perché, scusi, fare tutta questa notizia? Per quale motivo? Perché un funerale come tante altre persone? Ma cioè, non è un funerale come... Sud, ma scusi, ma lei ha... Ma io non ho mai visto un funerale fanno così. No, no, con la musica fanno del padrino, con la musica del padrino. Beh, vabbè. Lì nel mezzo vabbè, c'erano certo, centinaia di persone, molti dei quali erano condannati o indagati per questioni ripeto, di spaccio, di droga, di truffe, eccetera, eccetera. Non è un funerale come tutti gli altri. Scusa, cosa sta dicendo, Maria? No, voglio dire che ci sono anche altre persone importanti che sono morte e hanno fatto, diciamo, dei reati capitali vabbè in Italia. Adesso non voglio fare nomi però del passato, scusi, allora dobbiamo ammettere comunque tutto. Comunque sono stati rispettati, sì, nel loro funerale. Sì. Ah, lei dice questa, il funerale è una cosa sacra e quindi come lo fanno una persona, però non è così, perché un corteo di quanti erano, ora non so esattamente quante persone, centinaia di persone, 15 chilometri, che blocca Roma, non è una cosa come tutte le altre, capito? Ma ci sono anche dei responsabili dietro questo funerale. Sicuramente, sicuramente. Grazie Maria, buona serata, grazie. Andiamo con Nicola da Chieti. Salve, buonasera. Buonasera. Allora, niente, io sentivo poc'anzi la radio, sì, e lei aveva una tesi in motivo perché non era in carcere questo boss. Sì. Non me lo può ripetere, perché onestamente non riesco a capire. No, io non avevo una risposta, motivo perché per cui non detto, una risposta l'ho data dopo, perché non è facile mettere in galera certa gente, perché come abbiamo sentito la testimonianza di un romano, poi può darsi anche che se la sia inventata, però che diceva che non era riuscito a far condannare le persone che l'avevano aggredito, che erano dei Casa Monica. Allora io ho detto, non sempre si riesce a far condannare queste persone che sono potenti, minacciano i testimoni, ti mettono paura e tante volte la fanno franca. Questo ho detto. La pensa come me che c'è uno Stato assente? Uno Stato che non è capace di mettere in carcere questa gente? Ma certo che c'è uno Stato assente, altrimenti di che staremo parlando a proposito di questo funerale? Perciò ecco, perché altrimenti, come lo diceva prima lei, questo non sta in carcere perché non c'ha niente in tribunale. No, questo c'ha tutta una storia che praticamente dovrebbe stare in carcere da 50 anni a questa parte, secondo me. Sì, no, ma molti di quelli che ieri erano al funerale dovrebbero stare in carcere, lui probabilmente doveva stare in carcere più di quanto c'è stato o ci sono stati tutti gli altri, quindi l'errore, diciamo, sta nel manico. Da questo punto di vista sono d'accordo con lei. Voleva aggiungere, Nicola? Sì, con lo stesso motivo, lo Stato è assente, sì. Come è assente Alfano, come è assente tutta la Chiesa, come è assente tutto, insomma, praticamente, e come a Roma è successa ancora una cosa che nessuno però interviene, nessuno fa qualcosa, anche stasera, anche domani. Va bene, cioè va male, ma è così, Nicola. Grazie, buona serata. Grazie a te. Grazie. Gianni da Novara. Buonasera. Buonasera, grazie Gianni. Grazie di aver chiamato e dell'opportunità. Sì. Senta, io sono un medico veterinario e volevo ritornare sulla questione di cui parlavate prima dei cani e dei gatti che vengono trasformati, diciamo, contro la loro volontà, ovviamente, dai loro bella questa trasformati in vegetariani. Sì, perché di questo si tratta, di una trasformazione. Sì. Beh, mi spiace che la mia categoria sia stata un po' assente in questo dibattito, perché sì, avremmo molto da dire. Comunque, in estrema sintesi, dico, è una cosa che fa orrore. Cominciamo a vedere nelle nostre strutture, ambulatori, cliniche e quant'altro, casi gravi di malnutrizione. E tra gli animali? Sì, sono anche segnalati, parlando tra colleghi, casi di morte perché vengono portati alle cure in condizioni ormai, diciamo, cioè, disperate. La zoologa, Roberta Castiglioni, con cui abbiamo parlato prima, ha detto che bisogna dare degli integratori. Sì, certo, provare a integrare, però sì, comunque secondo me si profila anche un discorso di maltrattamento, quindi bisognerebbe stare attenti, perché queste situazioni andrebbero anche denunciate alla magistratura. Questa è materia. Dal suo punto di vista di veterinario, si può dire che chi costringe il proprio gatto a diventare vegetariano, come la signora che ha chiamato ieri sera, sta in qualche modo anche maltrattando il gatto, o sarebbe eccessivo dire questo? Assolutamente sì, soprattutto nel caso del gatto è maltrattamento puro. Quindi poi a volte, diciamo, i veterinari sono dei professionisti che sono pagati ovviamente dai loro clienti, quindi c'è questo stato a volte di sudditanza psicologica che andrebbe vinto certamente, dovremmo cominciare a segnalare questi casi alla magistratura, perché sono veri e propri casi di maltrattamento. Per fortuna insomma, qualche legge, non grandi strumenti, ma qualche freccia per fare veramente il bene degli animali, quindi no, per chi è veramente animalista, insomma, la si potrebbe utilizzare. Quindi segnalavo questo, c'è materia per la Commissione Nazionale Bioetica di occuparsi anche di questi temi. Addirittura, va bene. Grazie Gianni, buona serata. Grazie. A lei. Buonasera. Titoli della 7. Diventa un caso politico il funerale show di Vittorio Casamonica ieri a Roma, con tanto di carrozze, musica del Padrino, lancio di petali dall'elicottero. Le opposizioni, il ministro Alfano risponde in Parlamento e con il sindaco, si dimetta, Marino al contrattacco. Avevo ragione io, nella capitale la mafia esiste. Per ora però l'unico effetto è che l'ENAC sospende la licenza al pilota dell'elicottero, non aveva il permesso di sorvolo. Vittorio Casamonica, 65 anni, non era un elemento in realtà di primissimo piano nell'attività malavitosa del clan che da 45 anni controlla la zona sud-est della capitale. Usura, droga, estorsioni, traffici illeciti dei Casamonica, nome che comprende un migliaio di persone, una comunità formata da gruppi di famiglie unitoli da vincoli di sangue e legami matrimoniali, senza però un vertice, un capo, agiscono cioè in forma indipendente. Di uno di loro, Luciano Casamonica, si parla anche nell'inchiesta di Mafia Capitale. C'è da giorni un altro fronte caldissimo nell'esodo verso l'Europa, il confine tra Macedonia e Grecia. Oggi la polizia ha sparato lacrimogeni sui disperati che tentavano di entrare in territorio macedone. Ci sono 8 feriti. I profughi arrivano via Turchia da Siria, Iraq, Estremo Oriente e cercano di prendere i treni verso la Serbia e altri paesi dell'Unione. Bruxelles si dice pronta ad aiutare Skopje e sono stati avviati contatti con le autorità macedoni e l'ONU. Effetto cinese, crolli su tutti i mercati internazionali. La borsa di Shanghai chiude a meno 4,3% e trascina tutti, anche perché la svalutazione dello yuan sembra non avere effetti immediati. L'industria cinese non dà segni di riprese. Le borse europee dunque sono tutte in rosso. Milano ha perso il 2,8%, meno 6 punti nell'intera settimana. E anche Wall Street ne risente, perde e scende ai minimi. Entro domenica si conoscerà la data del voto anticipato in Grecia. Dopo le dimissioni di Tsipras, il capo dello Stato ha affidato a Meyarakis il tentativo, senza speranza per la verità, di formare il nuovo governo. Intanto scissione in Syriza, in 29 se ne vanno formando un nuovo gruppo parlamentare. Varoufakis per ora rimane con l'ex premier. L'Eurogruppo avverte, rispettate gli accordi, altrimenti niente aiuto. Va in comunità il bimbo della coppia condannata per aver sfregiato con l'acido l'ex fidanzato di lei. La madre invece torna in carcere. Questa è la decisione del Tribunale dei Minori di Milano. Genitori e nonni potranno comunque vederlo, ma solo in modalità protette. I servizi sociali dovranno stabilire entro 30 giorni se il nucleo familiare, genitori e nonni appunto, potrà rientrare nel procedimento di adottabilità. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 20 e 11 minuti, 800 24 00 24, ancora un po' di spazio per i vostri interventi. Andiamo con Carlo che chiama da Roma, buonasera. Stasera tantissime telefonate da Roma, credo anche un po' per dire in prima persona, no? Come avete vissuto la cosa di ieri, Carlo. Abbiamo vissuto malissimo, ma guarda, questa telefonata è soltanto per far notare qualcosa che tanti di noi stiamo pensando e che speriamo pensi anche la finanza, la polizia e i carabinieri. Qualcuno avrà, speriamo, preso le targhe di quelle meravigliose auto? Qualcuno starà andando a controllare come questi signori fanno i soldi? Guardi, è possibile, addirittura un ascoltatore diceva che secondo lui la questura sapeva tutto, ha fatto tutto in silenzio per poter prendere i numeri di queste targhe, fare delle foto, prendere diciamo dei dati e delle informazioni. Benissimo. Allora, ci aspettiamo di vedere il risultato di queste cose, lo vogliamo davvero vedere. Lei non immagina oggi a Roma di cosa si parla, che scoramento c'è? Chiunque a tutti i livelli siamo sommersi da questa vergogna e speriamo che ci siano veramente le azioni del caso, che non sono difficilissime, si possono prendere, si possono fare, e se no vuol dire che dobbiamo soltanto alzare la bandiera bianca e basta. Va bene Carlo, grazie, buona serata. Io ho detto semplicemente che se fossi stata la questura, forse se la questura era a conoscenza di questo, tanto da avere seguito il funerale a distanza per poter prendere anche informazioni, allora non capisco perché dire subito dopo noi non sapevamo, nessuno ci aveva detto che, e questo non capisco perché, ecco. Luigi da Cagliari, buonasera. Buonasera. Prego. Pronto? Sì, la sentiamo forte e chiaro. Pronto? Luigi, sì. Mi scusi, c'avevo la viva voce. No, niente, io volevo intervenire sempre in merito al funerale di Casa Monica, no? E allora avete sfiorato un po' il problema, un po' tutti quanti, però io continuo ad andare a controcorrente, nel senso che intanto è un funerale, non è soggetto a nessuna autorizzazione di polizia. Sì, però un corteo di qualche chilometro con 1500 persone forse. Infatti, sì. Infatti il corteo è stato un problema di viabilità risolto dai vigili urbani. Ma allora un ascoltatore precedente, c'è un ritorno mi sembra. No, la sentiamo benissimo, vada Luigi, tranquillo. Niente, un ascoltatore precedente ha detto che la manifestazione era diventata soggetta all'autorizzazione di polizia, quindi si doveva sciogliere. Sì. Come si sarebbe potuta sciogliere questa manifestazione? Facendo intervenire la Celere, il battaglione mobile dei carabinieri, come? Beh, guardi, tante manifestazioni vengono non autorizzate vengono sciolte dalla Celere e dalla polizia. Ma come? Come ha detto lei, intervenendo. intervenendo. Poi voglio vedere i giornali cosa avrebbero scritto. Presi a manganellate, perché chiaramente sarebbero opposti i familiari. Come avrebbero dovuto comportarsi? Guardi, piuttosto, non lo so, non sono questo, io il prefetto, guardi, o il ministro. Sì. Guardi, gli dico, piuttosto sì. Il questore ha fatto una figura barbina e poteva dire non era soggetto a autorizzazione di polizia, chiaramente è diventata una manifestazione successivamente, però noi... Ma non dire non eravamo a conoscenza. Però quello voglio capire se secondo lei, lei ha fatto delle obiezioni anche giuste, insomma, non è che ha detto chissà che cosa, non si poteva fare molto di diverso rispetto a quello che è successo. Però le chiedo, quello che è successo va bene così? Oppure sarebbe stato meglio non succedesse? Ma io non vedo come si sarebbe potuto comportare. Questo ho capito, ma la domanda è diversa. Sì, non si poteva impedire, ma i funerali fatti in quel modo vanno bene così? Cioè, va tutto bene? Io ho sbagliato iniziato il discorso. Sì. Cioè, chiaramente un funerale del genere è moralmente discutibile e ci mancherebbe altro. Ma no, anche come immagine per una città. Ma . Ci mancherebbe altro. Sì. Ma come si sarebbe dovuto comportare? Se non è soggetto a autorizzazione di polizia, il questore cosa doveva fare? La mattina presentarsi là con la striscia, con la banda. No, va bene, ma è chiara la sua obiezione. Grazie Luigi, grazie. Buona serata. Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo tra poco. Si può fare l'attualità anche d'estate. Cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia dove passi tu, dove passi tu. Dove passi tu? Dove passi tu? Il cobra col sale. L'hamburger al pitone. L'hamburger al pitone è una delle ultime novità di Expo a Milano. Insomma, tra gli insetti e l'hamburger al pitone va a finire che la fiera che Expo si trasforma in una fiera del mangiar strano, che potrebbe essere un modo anche questo per così interpretare il tema, nutrire il pianeta. Ne parliamo con Lisa Casali. Buonasera, ciao Lisa. Lisa, ci senti? Ciao, eccola qua. Lisa Casali conduce da Expo per la RAI il The Cooking Show tutti i giorni. Sei forse una delle persone che, a mio modo di vedere, sta interpretando più alla lettera il tema di Expo, nutrire il pianeta, bla bla bla, senza sprecare risorse, perché le tue sono ricette a base di avanzi, giusto? Sì, diciamo che ho questa grande fortuna tutti i giorni di poter incontrare, insomma, grandi interpreti della cultura italiana e vederli all'opera e poi naturalmente anche dire la mia e quindi aggiungere qualcosina in più, insomma, improvvisando di solito, quindi magari senza fare grandi cose, sì, cose semplici, ma di sicuro ispirata dai temi della sostenibilità. E come dicevi, non mi sto perdendo neanche una giornata di Expo. Ecco, a proposito, ma sei riuscita a uscire un po' dallo studio Rai e mettere il naso da qualche parte? Possiamo dare anche qualche consiglio? C'è ancora molta gente che sta andando a Expo in questi giorni, code, no? Devo dire effettivamente molto affollato questi giorni. Si aspettava anche Cufi l'agosto deserto, in realtà assolutamente, anzi, a me sembra che sia più gente adesso che a luglio. E di sicuro giro molto, esploro, e questi giorni con questa folla magari anche non è sempre facile. C'è ancora coda davanti allo stand al padiglione del Giappone, che tutte le volte, sì, che sono venuto non sono riuscito mai a entrare. Che cosa c'è dentro il padiglione del Giappone? Me lo dici, diciamo, tu? Diciamo che è molto suggestivo, quindi magari non grandissimi contenuti. Sì. Se siete alla caccia di contenuti, vi consiglio la Germania. Sicuramente è anche il più didattico, quello che può piacere più i bambini. Il Giappone, diciamo che ti lascia qualcosa di magico, ecco. Quindi diciamo è più suggestivo, un po' sul genere di quello della Svizzera, che ha colpito molto per questa questione delle risorse che si consumano. Quello della Svizzera ha un'idea molto forte. Forte, bella. Il padiglione in sé, insomma, è anche abbastanza funzionale allo scopo, però l'idea è forte, insomma, le risorse del pianeta non sono infinite, quindi se ognuno prende il giusto basterà per tutti. Perché ci sono proprio dei silos, vogliamo raccontarlo per chi non la sa, sì, questa storia? È bella. Sono torri con contenenti alcuni prodotti come sale, caffè, diciamo che hanno scelto volutamente forse non proprio i prodotti di cui avremmo fatto incetta in modo da farli durare un po' di più. Tipo cioccolata o cosa del genere, sale, caffè. Però hanno scelto cose meno appetibili, sono delle fantastiche chips di mela, però molto buone. E l'idea è che chiunque può entrare e approvvigionarsi, insomma, a piacere, quindi puoi prenderne quante ne vuoi. E l'unica cosa è che forse hanno fatto male i conti gli svizzeri, pensando che i visitatori di Expo avrebbero, quindi con pizzico di consapevolezza in più, preso il giusto. Invece è sparito tutto. Sì, io stesso ho documentato foto di persone che uscivano con dei carrelli pieni di sale, di caffè, per il gusto, insomma, del gratis. Quindi, però il messaggio era anche questo. Quindi, appunto, adesso chi entra non trova niente in molti di questi torri. Io non ci sono più entrato, diciamo, non lo so. Però lo sono svuotate più rapidamente di quello che era previsto. Da quello che mi risulta, sono state riempite nuovamente con un po' di prodotti, in modo da dare la possibilità ai visitatori di fare questa spesa, questa esperienza, insomma, che però il punto è proprio quello, cioè di trovare vuoto e di capire che è così, che funziona così con le risorse del pianeta. Senti, ma questa questione dell'hamburger di pitone, no? Qualche giorno fa invece si parlava degli insetti, è un modo anche questo, perché è un modo di interpretare il tema di Expo, questo di mangiare le cose strane? Beh, adesso più che le strane, uno dei temi di Expo comunque è la scoperta, è anche il viaggio. Ci sono alcuni padiglioni che hanno interpretato il tema proprio come facciamo una promozione turistica del paese, insomma, ci sono alcuni padiglioni che parlano quasi solo delle attrazioni del posto, altri che magari incuriosiscono il pubblico con specialità strane. Lo Zimbabwe, diciamo che si trova all'interno del cluster dei tuberi e cereali, di sicuro non è come una delle prime attrazioni, insomma, che si vanno a vedere, ma di sicuro grazie all'assaggio della zebra, del coccodrillo e adesso del pitone, hanno sempre la coda fuori. Sì. E quindi è sicuramente un modo anche per attirare persone nello spazio all'interno del cluster, che sicuro è più piccolo, non ha le cose spettacolari che può avere un padiglione. Insomma, i cluster sono anche un'invenzione dell'Italia, una delle innovazioni che ha portato l'Italia a Expo Milano 2015, proprio dell'inventare il cluster. Sì, no, ma a me ha incuriosito, al di là poi della stranezza del cibo del pitone, il fatto che mi sembra quasi un parallelo con quello che fai tu. Tu cucini utilizzando gli avanzi che ci sono in casa, e mi sembra che la carne, insomma, di pitone magari sarà poi pregiatissima, o anche gli insetti, non lo so, ma è come un po' mangiare gli avanzi rispetto alla fettina di vitello che regna sovrana e che però forse non è molto sostenibile. Secondo me sì. Le cose devono avere un senso. Se tu, ad esempio, insegni alle persone ad apprezzare una carne che non ha mercato, un taglio poco nobile, piuttosto che un insetto che è considerato una peste, un infestante, ha un senso. Se invece insegni ad apprezzare una carne che magari in questo momento non ha mercato da noi, che però appartiene magari invece a una specie che può essere anche a rischio, può essere vogliamo dire minacciata. Il pitone, vogliamo fare esempio il pitone. Diciamo, adesso io non so esattamente quale specie del pitone porteranno. Ci sono alcune specie di pitone dove l'habitat sicuro, insomma, è anche distrutto, è in pericolo. Quindi, insomma, la curiosità la capisco. A volte servire anche un prodotto, un animale che è a rischio, è anche un modo però per dargli un valore commerciale e farlo conoscere, magari farlo scoprire anche a chi nemmeno sa dell'esistenza magari di quel particolare insetto o in questo caso di magari di un rettile che uno non si immaginerebbe mai di mangiare. Però deve avere un senso, ecco, se è soltanto una trovata pubblicitaria non mi piace. Senti, la cosa la sostenibilità che... di sicuro va a pari passo anche con questo tema, insomma. Una cosa che hai scoperto tu, che prima ancora di Expo, insomma, sei una scienziata ambientale, sei un eco food blogger, quindi da tempo ti occupi di queste cose. Una cosa che hai scoperto tu che ti ha sorpreso, oppure la cosa più strana che hai mangiato tu in questi mesi? C'è qualcosa che ti ha sorpreso particolarmente? Beh, questi mesi, diciamo che appunto io ho un punto di vista molto privilegiato, quello tutti i giorni incontro due grandi chef, di cui uno italiano e l'altro arriva da ogni parte del mondo, quindi ho avuto chef dal Mali, dall'Oman, quindi sto provando veramente di tutto di più, molto lontane dalle nostre, quindi ho scoperto per esempio che nel Bahrain fanno colazione con spaghetti fritti cotti con mezzo chilo di burro e oddio, una frittata di uova sopra. E non ho ancora capito bene se perché dopo vanno a lavorare in miniera o per qualche motivazione. Bisognerebbe sapere qual è la speranza di vita nel Bahrain. Quindi, perché sì, mi preoccupo. Quindi diciamo che sono anche le abitudini gastronomiche, le tradizioni che uno scopre girando in Expo. Cose proprio assurde no, diciamo che la più assurda sei tu, dai, che cucini con gli avanzi. Dici una ricetta assurda, perché ci sono delle cose, poi basta andare sul sito per vedere, anche su YouTube ci sono tantissimi video divertenti e pazzeschi, però è incredibile, cioè qualcosa che ti viene in mente all'ultima ricetta con gli avanzi che hai fatto, qualcosa di estivo, bucce di frutta, che ne so. Beh, una cosa che ho fatto recentemente che un po' alcuni fa sorgere il naso è la buccia dell'anguria. Uno non si immaginerebbe mai di mangiare, e in realtà è proprio la parte più esterna, quella dove c'è la maggiore concentrazione di vitamine e anche di particolari sostanze che hanno la proprietà di disintossicare l'organismo. E la miseria. E quindi un motivo in più per imparare ad usarle. E in realtà la buccia dell'anguria, se togli proprio esclusivamente lo strato più esterno, che è quello più coriaceo, sì, la puoi servire come un carpaccio, marinata, possono fare diverse cose anche a crudo, estive. Quindi si adattano anche alla cena in terrazzo. Quindi la buccia, ecco, vedi, la cena in terrazzo, il guscio dell'anguria, pulita solo dalla parte esterna e tagliata, immagino, a fettine sottili, perché altrimenti rimane un po' dura alla masticazione. Ma mi piace questa tipa perché è una cosa che ha un senso, fa anche bene. Fantastico. Ti stiamo quasi perdendo, perché immagino che di venerdì sera tu stia dirigendo chissà dove, quindi ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao Lisa. Va bene. Ciao. Buon lavoro, buon grazie. Lavoro. Ciao. E allora, se andate in Expo, ma se no basta andare sul televisore TG3, The Cooking Show, è molto interessante quello che fa Lisa. Allora, chiudiamo anche per questa sera con qualche ascoltatore. Dove vado? Luigi da Reggio Calabria? Dottor Maurizio, a me ha colpito molto questo episodio di Roma, sì, perché dalle nostre parti, sì, almeno da un vent'anni a questa parte, questi funerali di boss, di mafiosi, li fanno svolgere al mattino presto, all'alba, con parenti stretti del defunto. Uguale. Quindi, quello che è successo, sì, a Roma ieri, uguale. Era metà giornata e c'erano 2000 persone. Sì, guardi, lo scorso anno, per dirne una, è morto qua un boss della zona, e i funerali li ha fatti alle 6 di mattina con 6-7 macchine, sì, dei parenti e due o tre della polizia. Cioè, ora a Roma, ho sentito poco fa che magari c'era la polizia che prendeva gli immuni di targa, eccetera. Però a me pare strano, sinceramente la reputo una cosa gravissima. Va bene, veramente. Grazie. Va bene. Buona grazie serata, grazie. Buonasera. Buonasera. Aldo da Grosseto, prego. Buonasera, Aldo, ci sente? Complimenti, sì, per la trasmissione. Grazie. Io mi torno a quel signore al sindaco di, sì, che voleva mettere le prostitute lungo la strada col giubbotto. Con dei giubbotti catariprendenti e anche i pantaloni di notte, sì, riprendenti. Tanto mi sembra esagerato. Quello che volevo dire, secondo me bisogna lottare perché finalmente anche in Italia, come gli altri paesi del nord, hanno regolamentato la prostituzione, facendoli aprire delle case, sì, apposta. Sì. È una proposta, tra l'altro a farla è spesso anche la Lega, credo che abbia anche una proposta, sì, di legge. Se ne parla molto, sì, però il sindaco che abbiamo intervistato è di quell'area politica, quindi sicuramente sarebbe d'accordo con lei. In assenza di una legge nazionale, lui dice ce la caviamo così con i giubbotti catarifrangenti, ma staremo a vedere, ma è possibile che questa cosa dei giubbotti non veda mai la luce, eh? Io l'ho detto nell'introduzione, ordinanza fantasiosa, staremo a vedere. Grazie. Ci sono anche altre possibilità, per esempio certe città hanno la sera la polizia esce, li arresta, li porta in questura e poi la mattina li lascia, continuando a fare così ogni notte se ne vanno. Va bene, grazie Aldo, buona serata. Direi che è tutto per questa sera, perché non abbiamo più tempo per gli altri ascoltatori, li risentiremo sicuramente lunedì. Grazie per essere stati in linea in attesa, grazie anche alla redazione, Cristian Goldoni, Grazia Gala, Leonardo Siligato, Andrea Piana, Carlo Gabardini stasera non era con noi, lo risentiamo lunedì, credo, spero, grazie a Valeria Bernardi in regia. Tranquilli, inizia il weekend anche per noi. Ciao a tutti da Alessio Maurizi, buona serata, ciao.